preferivo più il modello vecchio, cioè esteticamente mi piace di più, proprio perché è particolare. Da pur c'è una cagliata di macchina, questo lo dici tu, però l'utilità secondo me monovolume come la macchina, come la Fiat Multipla, non ve n'è. Ma Ruggero, ma infatti è quello che stavo dicendo, a parte che non ho detto che è una cagata, ho detto che è una gran cagata, no, sto scherzando, no, ci mancherebbe, è una macchina riuscita che però forse non ci ho fatto l'occhio, ma proprio perché non ne vedo ancora e non ne ho visto l'utilità. Stavo dicendo a Massimiliano, se hai sentito da prima, che chi l'ha provata se ne è innamorato e anzi se ne è comprata più di una a seguito del fatto che magari una l'abbia rottamata e così via, capito? E non abbia trovato, come diceva lui, una macchina simile come prestazioni. Abbiamo lasciato in parcheggio Gianni Doppio Ru. Gianni Doppio Ru, cosa ne pensi tu? Io vi ascolto, là, vi ascolto. Penso che ognuno abbia i suoi gusti, ma a me non piace. Papà di Roger, è affermativo. Va bene, niente, io volevo, non volevo essere la solita fanfarronata, perché ormai di queste cose che dovevamo fare, dovevamo tirare, dovevamo mollare, e che vogliono dare, per quanto riguarda, sto saltando il palo in frasca, scusate, per quanto riguarda quella manifestazione che dovevamo dare, gli volevano dare la giusta importanza. Purtroppo è fra il mio trasloco e tutta una serie di altri problemi, hanno dovuto procrastinare la cosa e domani, anzi lunedì a dire la verità, mi devono comunicare la data, quindi la ufficializzerò appena me lo dicono. Infatti ti volevo chiedere anche quella, se non te ne occupi tu probabilmente non si fa niente. No, ma guarda, l'avevo promesso a Gianni, adesso ci sono anche le condizioni per farlo in piazza, e che vi dico che sono oberato dei casini fino al coso, perché non è che quando fai il trasloco o hai un trasloco comunque smetti di lavorare, perché da mangiare ne devi trovare sempre sul tavolo, e quindi sono pieno di 2000 impedimenti di rimenti e mi sto mettendo nella condizione davvero di uscirne. Da lunedì dovrei essere nella condizione davvero di poter organizzare la cosa, perché onde evitare che ci fruscino dietro, voglio fare una cosa un attimino carina, tant'è vero che ho coinvolto anche Walter Diabolic, se ci può mettere nella condizione di avere qualche apparato in modo tale da fare la figura, dai. Non esporremo più di una ventina, anche perché secondo me è a carattere informativo. Dopodiché faremo un pacchetto di basic per chi vuole iniziare a modulare, tanto ormai con 150 euro, guarda, puoi iniziare tranquillamente con una Ringo che costa 38 euro, 35 euro, un baracchino di questi della, qua ne ho un calascio, della Intec che sono il 120 Plus, che ti dà 400 canali, chiaramente è omologato, devi evitare di andare sulle altre bande. Costa, mi sembra, 50 euro, quindi siamo a 84, un cavo di calata ti costa una ventina euro, un trasformatore da 2 ampere, 2-3 ampere ti costa una trentina euro, con 150 euro stai modulando alla grande. Sì, sicuro, sono d'accordo con te, tanto poi se poi trovi qualcosa di recupero risparmi anche la situazione. No, diciamo 20 baracchini, a meno che non vuoi fare una mostra, burusdruppi, secondo me come fare un veicolare, un portatile, o Mali 2-2, e un stazione base, e far vedere, questa è la CB, ci sono le possibilità, dal minimo, il più semplice di tutto è il portatilino, fino ad arrivare alla stazione base, è quello un pochettino più importante, e poi vai messo vicino a un apparato HF, e questo è l'ultimo stadio quando diventi radioamatore, per utilizzare questo tipo di bande, e magari gli spieghi, qualcuno gli dà qualche indicazione di tutte le bande radioamatoriali, cosa puoi fare, le potenze che puoi utilizzare, eccetera, eccetera. Si mette una piccola antenna, ma anche in Piazza d'Italia, secondo me, più che andrà in coso, abbinarlo a questa, allora domani per dire, in Piazza d'Italia c'è il mercatino dell'antiquariato, lo fanno tutte le ultime domeniche del mese. E abbinarla a quella roba lì, sperando che sia una bella giornata, se non male si può anche rinviare, adesso le giornate teoricamente dovrebbero migliorare, e fare una cosettina del genere, metti un'antenna di Piazza d'Italia con un tripiede e fare delle prove di trasmissione, secondo me è una cosa senza impegnarti più di tanto, poi magari se c'hai un inverter e una batteria non vai manco problemi di corrente. Perché l'inverter non c'è bisogno, se stai andando di batteria non hai bisogno di invertire niente, a meno che non stai andando, vabbè, stai dicendo se vai con la base, sì, ma anche i modelli base di solito avevano la doppia alimentazione. Al limite il minimo che si può fare è 10 baracchini, perché comunque devi far vedere diciamo, le tre fasi della CB, cioè gli inizi, dove alla fine poi sono radio più che altre militari modificate, gli anni 70 che erano gli anni del proibizionismo per la CB, e dopodiché in finale quelli che sono gli apparati moderni, va bene così, sì. 10-15 apparati vanno più che bene, 20 iniziano ad essere impegnativi, anche perché li devi tenere sotto occhio, li devi tenere sotto vetrina. E niente, adesso chiederò, so che Walter è fuori, appena rientra gli rifaccio uno spino, ma mi aveva dato piena disponibilità, ma non mi aspettavo dire diversamente, perché è una persona gentile e squisita, quindi assolutamente. Ah, ma poi magari in realtà si può mettere anche per far vedere che non esiste solo il coso, il baracchino, per dire, per dare anche qualche spiegazione tecnica, magari metti un piccolo accordato dell'antenna, le fai vedere, guarda, quando ci sono questi problemi, gli spieghi le stazionarie, il rientro di radiofrequenza, eccetera, eccetera, anche per dare anche una cognizione minima tecnica di coso, di radiazione. Quello sicuramente, cioè, la vorrei organizzare così, nel senso che metteremo un banco espositivo con due o tre banchetti, avremo un gazebo se la facciamo fuori, e ci sarà una, l'avevo già scritto, comunque un volantino a carattere esplicativo per quanto riguarda la nascita della CB, che cosa significa la CB, cosa vuol dire modulare, come si modula e quali apparati necessitano per... E dopodiché, senza scendere troppo nel tecnico, la possibilità di fare una prova di modulazione, anche perché, guarda, tu devi vedere come ho rifatto, fra l'altro, Gianni, come ho rifatto quell'accordatore d'antenna della Vectronic che ho preso da Natalino, l'ho completamente rifatto, se lo vedi non lo riconosci più, perfetto, mi sono fatto rifare anche la mascherina da un grafico, quindi per dire, basta una qualsiasi antenna, basta che l'accordi, non c'è problema. E poi magari metti un paio di microfoni, ti dà un palmare semplice, un amplificatore e uno da tavolo, in modo di far vedere che ci sono anche possibilità di evolversi a livello di trasmissivo di cose. Se venite con la carriola vi lo date, così siete a posto, perché io non lo porto. E poi mettete anche qualche lineare, così le dite, quando non arrivi abbiamo fatto quello. Appunto. E poi li porti in amplificatore pure tra un bel 1000 watt, li porti così oscuriamo tutta la festa d'Italia. Claudio, stavo parlando male di te, non sei sbucato fuori, cosa, è finita la partita? Mi sto ascoltando, non c'è problema, provetto Antonio, io mi sono un po' abituato anche ad ascoltare, quindi vi saluto sempre tutti, mi stavo ascoltando, ho detto se porti una carriola per caricare il DAT il martedì 10, così si accorgono cosa c'è nell'aria. Questo è nominato il più grande baracchino al mondo, quindi non credo ci siano altri baracchini che possono essere di questa stacca. L'ultimo che è venuto qua è l'abito di traverso, perché ormai il baracchino non più, però era un angolo, ma trovo l'abilitatore è collegato, non ho l'abilitatore, quello è un baracchino. Dunque baracchini ho ancora armadio, se vi dovesse servire qualcosa non c'è problema, anche il fondo fischio. Vi ascolto. Beh, sto facendo una cosa al PC. Avanti, riprendete, cambio. No, più che altro ci serve anche la tua presenza, perché sicuramente ci serve una persona che fisicamente sia integra, capito? E infatti ti volevo chiedere, non è che conosci qualcuno che è fisicamente integro? Non lo so, in questo periodo non sto frequentando molte persone, sono sempre da solo. E dice proprio non meglio solo che male accompagnato. Guarda, io in una vecchietta così mi ha mandato anche la pergamena, dove c'è scritto Campo Scuola 2012, il proprio italiano di soccorso, ordine di Malta, dunque di Sassi ringrazia per la partecipazione e collaborazione Claudio Matti, IS0 DSB, che era una cosa praticamente un campo scuola del ora non so esattamente organizzato essere anche una cosa molto molto carina, tu se ben organizzata, ma non ho dubbi, se organizzata da persone competenti e valide sicuramente ne esce una bella cosa. Io solo a fare una proposta costruttiva. Vai. Facciamo la fondazione Claudio Sparviero, io sono l'economo che ritira i soldi, facciamo una specie di scatola, mettiamo questa per i CB, come si chiama? Quando muore un CB, come si chiama? Per l'envelope, e prendiamo tutti i soldi. Può fare, gli dedichiamo anche la via. No, a me lasciatemi fuori da qualsiasi ombra oscura, io vado bene così, ripeto, ribadisco. Entro, saluto e rimango sempre al mio posto, mi piace partecipare a tutto, sei invitato naturalmente, e se la mia presenza è... va bene, diversamente ne ho anche fatto di cotte e di crude, quindi va bene così, al momento sto benissimo, non bene, sto benissimo così e voglio continuare così, non mi metto più in mezzo ai cacchi di nessuno. Cotte di curde, ma ascolta, ma che baracchino vorresti tu dentro la bara? No, no, dentro la bara non ci stanno i baracchini miei, perché baracchini non ne ho. Credo che ho venduto tutto, anzi, regalato tutto. Tutto quello che tu hai visto, dove sei andato, il 50% è tutta roba che gli ho dato io, quindi sappio. Dopodiché, niente, io mi sono tenuto solo il DAC e... quello che mi ha regalato Pinocchio, che è un Inuit 50-24 che è dentro l'armadio. Tutto il resto è noia, qua non c'è più niente. Finalmente vedo tutte le mie linee, tutte le mie cose fatte bene, buono, perché stava diventando non più una sala materiale ma una sala di CP2. Sicuro che sia il 50-24, non è il l'Inuit, non è il 294. C'è il 294 e il B5024. Allora tu sappi che devi sapere una cosa, che il Zodiac B vuol dire come base, 5024 è il padre del Tokai 5024. Solo che quello lì è base e quello là è veicolare, però sono le stesse radio, uguali, precise, identiche, messe all'interno di un cassone a 220, fatto a 220, tanto vero che c'è l'11 alfa. 22 canali più il 23esimo e l'11 alfa, il canale 23 non ce l'ha. Ma tu stai dicendo il, perdonami, l'Inuit questo? Il Zodiac B5024, Zodiac B5024 e l'Inuit B5024 sono gemelli. E in volte ce li ha tutte e tre, c'è cioè l'Inuit B5024, il Zodiac B5024 e il Zodiac che praticamente è il 6 canali, sempre base 6 canali. Walter è fuori gara, Walter fai prima dire quello che non ha che quello che ha, così. A un certo punto mi sono messo a cercare il baracchino più cagato di questo mondo e ce ne aveva tre, figurati. Sono tre serie, un collezionista fa prima, seconda e terza serie, prima, seconda e terza serie, se era in uso, se è uscito praticamente. Ma la prossima settimana io avevo solo la volta, perché ti ripeto, ho levato dei mobili, delle vetrine che c'erano nell'appartamento di Alessio Francesco, lo stiamo liberando perché è in vendita. La prossima settimana sono da lui tutti i pomeriggi che devo mettere a posto tutto il bunker, quindi radio con radio, matricola con matricola, e selezionare tutto, mettere tutto a posto perché è un mondo estraneo. Piacere di sera, Gisla, magari aspetta un po' dopo, perché me l'aveva promesso, mi faceva vedere anche a me coso. Va. Ah, non l'hai mai visto? È un bunker completamente immerso, le pareti sono tutte immerse di baracchini da collezione. Capito, Rube? È un bunker completamente immerso di baracchini, lui naviga in queste pareti. Però è un mondo acciaio, tutti in terra, tutti buttati, tutti appoggiati, tutti allora. Siccome mi ha regalato un'antenna macrodontica, una tre bande 10, 15 e 20, quindi io ce l'ho per il polo rotativo di 40, quindi dell'eredità, ho detto, facciamo una cosa, vengo tutte le sere, ti metto a posto il bunker, e infatti mi ha detto, no, ci vogliono le vettinette ce le hai, va. Andiamo a vedere San Francesco, le ho viste la casa, si vuole già trasferire lì, per quanto è bella, però purtroppo stiamo vendendo. Quindi era la stessa cosa che mi aveva dato quella, questa antenna. E allora mettiamo a posto tutto. Non so, quando lo senti ogni tanto, cioè si fa sentire qua, c'era anche l'altro giorno, dillo, scendi con me, vai con Antonio, vedi tutto. No? Sarà molto più bello anche tu quando è tutto messo a posto. Assolutamente, ma Robè, io ci sono stato. Qualsiasi descrizione ti facciano non è mai a vederlo, perché non te l'aspetti, cioè ti dico solamente che se tu entri lì dentro e gli porti via 200 baracchine non se ne accorge neanche, per farti capire quanti ce ne sono, cioè una quantità innumerevole e illimitata. Sì, ma l'hanno detto. No, ci siamo sentiti con Walter diversi mesi fa, era venuto in officina, ha detto, mi raccomando, vieni quando vuoi, telefonami. Ma Anico, la scusa, se ci fa Claudio, ma la scusa per andare a vederlo, sono curioso. L'unica cosa mi dispiacerebbe se Anico, se è un posto umido, si rovinerebbero, rovinassero i baracchini. Umido non è, però non è neanche molto caldo. Che quei baracchini non sono alimentati, molti sono base, infatti lui ha messo tutto negli scaffali, così base con veicolari di una certa stampa, no, io devo fare vetrina per vetrina, tutto come dico io, perché lui lo sa, viene qua e vede ordine, non manda saggio, capito? Quindi un paio, quattro li lavorati io. Di quelli di vecchia generazione, valvole, dice le valvole non sono al 100%, però è nuovo, c'è aperto, lo spaccato, tutto quanto, il coso. Mi sembra che sia, non so se è un 300 o 500 watt, quelli grossi che facevano una volta con i commutatori, 170 euro, bellissimo. Ma quella è con una certa variabile, ho capito quali sono. Ma io te ripeto, guarda, io qua ho ricambiato tutto. L'amplificatore è quello HF, quello della 27 addirittura l'ho messo dentro l'armadio, ho fatto un armadio su una serra, messo tutto dentro, perché non mi serve, non mi interessa. Vado con quei pochi watt che mi concede questo 430, giusto per sentirci, per niente, per fare due chiacchiere. L'amplificatore ormai io devo dedicare a mettermi sulle bande amatoriali, perché lì non si passa, se non c'è il watt non si passa, ma non perché devi essere forte, perché sono talmente persone inaffidabili e persone che lavorano solo con i watt, dormono con i watt sotto il cuscino, quindi se non hai qualcosa da mettere, non ti vado di mano. piscina e poi devo montare la cubica per i cilindri, e quella in costruzione la deve fare Marco, la barraccia, cioè la video, e ce n'è anche prima ieri. Robe! Poi di Rogero, assolutamente, ma infatti è un peccato che siano tenuti così, ogni tanto se ne mangia qualche pezzo il cane, gli mangiava un pezzo d'antenna, un pezzo di coso. Se sei andato da poco, tanto ci hai visto dietro quella porta, c'è di tutto di più all'ingresso, dietro la porta c'è quel tavolo, tutti quei lineari che ci sono di macchina, dei furgoni, baracchini, tutti buttati, quindi sono tutti bruciati, quella roba è sparita tutta, lì ci fa una vetrinetta, abbiamo già visto tutto, che faccio un lavoro, ma come dico io, perché lui deve solo stare lì a farmi fare a me. E poi quando ci devi fare mi dirai, qua c'è la mano di Claudio, io ti rampo tutto, la roba non serve, io non la voglio vedere, ho detto, procurate degli scatoloni, in plastica, un cassone di quelli della tetta urbana, non me la putti nuda, la roba che non funziona, io in vetrina non la metto, rampa di tutto, conservatela, mettetela in garage, mettetela a pompare, mettetela dove ci avevi la... dove c'è la casetta delle motograppe, arrangiati, ma lì devono essere tutta roba pulita e ordinata, perché io mi porto i prodotti, i baracchini, le radio, le pulisco tutte, le assemblo, le metto, serie con serie, basi con basi, veicolari con veicolari, microfoni con microfoni, perché è una grandissima vergogna così. Ma riprendo io, scusatemi, mi sto trasferendo di Cotillaca, ci sentiamo fra una ventina di minuti se siete ancora qui. Quel RIX per me, o meglio, quel RT, riprendo l'altra stazione. A dopo. Via, d'accordo, se ci siete, a dopo. Altrimenti, buona fine serata a tutti, ciao ciao. Stavo andando io, non te ne stai andando tu, Sì, già sono qua io sono sempre in ascolto, ma di questo stai andando tu, via, vado anch'io, rimango in cuore via. C'era comunque Gianni Doppio Rum che abbiamo lasciato maleducatamente in parcheggio. Gianni, riprendi, scusami se non l'abbiamo rilanciato, avanti. Non c'è problema, sto a ascoltare anche, non c'è problema. A me fa piacere anche fare ascolto. Io sono amici di buco. Gaba gaba. Va bene, riprendete che io sono qua, mi sto riposando un po' perché c'è un dolore alla gamba che non devo subire. E curendi una passata di schiaffi al cuscino, vero? Natalino. Ciao Giovanni, ciao Gianni, buonasera. Magari ho sollevato il lume quando mi parlano tu con Roberto. Va bene, sono qua comunque, non c'è problema. Va bene. Sandro si stava fermando per entrare al bar, io stavo scaricando l'acqua, sono per salire il gradino col carrellino, carico l'acqua, gli ho fatto forza con il piede, no? E la scarpa non ha diritto al terreno perché c'era un gradino e sono scivolato e sono caduto al culo a terra e tutta l'acqua sotto. Mamma mia, queste cose bisogna stare molto attenti perché da lì poi, sai, nascono quegli stiramenti che alla fine poi ti creano un po' di problemi. Avevo un paio di scarpe Asolo da trekking, se non tengono quelle purtroppo non hanno diritto perché la liscia. Se c'è quella scarpa già, allora li riporti. Le dici cambiatele, perché quelle sono micidiali, quella è una colla, sia sul bagnato che su tutto, quelle non scivolano, noi ce l'abbiamo così quando per lavoro, sono proprio quelle, io sono l'unico che non le usa antifortunistiche perché è così, però sono delle bellissime scarpe, quelle in cuio sono. No, le mie praticamente hanno la circolazione che se ti entra l'acqua te le cade e te le danno nuove. Sono fatte, aspetta, è quel materiale che non entra l'acqua, adesso non mi viene il nome. Quello che non ti entra l'acqua, sì, vabbè, il materiale è quello, non mi ricordo neanche io, comunque già ho capito qual è, no, no, mi esce un buio. C'è un buio e ogni mese le passo appena appena di grasso di foca e rimangono sempre belle pimpanti, però devono aderire quelle, se scivolate con quelle se le andate le avrete. Ascolta, io se bucaggio da qua a terra per colpa delle tue scarpe, però facciamo? Voi avete il grasso di culo. Sempre il numero uno. Mi sembra che si chiami caucciù, quella specie di cosa che non entra l'acqua, le varie. Non lo so, è un materiale semisintetico, una cosa del genere, o sintetico addirittura, che permette appunto di non entrare l'acqua, è una gomma particolare. Secondo me il problema non sono le scarpe, secondo me è la persona che le usa. Non so. Gianni, sento Massimiliano Zetta. Ehi, ti ho sentito, sì. No, il problema è che la bagnata era un gradino liscio, quindi non ha diritto, non c'è toccato la persona che le usa. Chiara. Quello lì erano le scarpe che avevo comprato per fare servizio ambulanza. E devo pagare a te con la barca di dinare, l'avevo preso da Deltaplano. Allora l'ho pagato 200 euro. Ci sono quelle adesso, le ho già, lì a Carrefour, Udia, la marca dei pneumatici, perdono freno, belle, quella punta d'acciaio. No, ma queste qui non sono antifortunistiche, Massimiliano, sono da trekking. Sono le asole, quelle che ci sono a portare arrampicata, per intendersi. Infatti, hai visto dove si arrampica due? Ma attaccano non sul liscio così, i cazzo stampi. Anzi, prima, dico la verità, stavo uscendo dal furgone, cazzo, era giù lisciccato, ma proprio non mi troncussimo. E dopo, lì nel gradino, cazzo, c'avevo il carrello carico, ho puntato i piedi per salire nel gradino, cazzo, e mi è mancata la dritta da sopra. Positivo, va. Dai, rimango in ascolto, che mangio due spaghetti alle cozze, va. Vi ascolto volentieri. Io ho mangiato a pranzo, stanotte pizza, sempre c'è il profumino, fra un po' andiamo, pizza, non ci guardiamo la TV, e poi niente, e poi siamo arrivati, capito? Ti puoi fare un po' di scale, sali e scendi, no? Ma mi sembra di Anna. Ma non l'hai compreso, guarda, prendi la roba, va a fare tutto. Va bene. Tira in culo. Sai cura, non basta ancora giungarti. C'è ancora due tubi da portare su. Mamma, se ne vede, ci stanno l'ascensore. Se vuoi avanti me l'ha barito, quello lì c'era i manichini. Allora, ma te ne manco, io prendine uno, e uno io. Una volta che avuto siamo saliti a piedi. Non ci prego più, no. Fai portare Anna, è una volta. Fatti che era abbastanza un po', vedi dopo, ci fate una certa, una parata. Dai, signori, io non mi rimango in ascolto, dai, che vi ascolto volentieri, no? È pronto, mi siedo, se no, vedo che ti curi davvero. Ciao Gianni, ciao Claudia. Ma scendi domani? Sì, sentiamoci verso le 9. Non so se serve la macchina, dai, vabbè, vediamo, dai. Sentiamoci verso le 9. Ascolta, ma questo qual è? 140? È positivo, sì. Per 85. Via, beva. La bomba. Un bettonalità alta, belle frutti. Va bene quel microfono per quella radio, no? Vabbè. Dai, anch'io Gianni ti saluto, c'era Roberto, si è allontanato, non so se c'è ancora. Dove passo il microfono e ci sentiamo dopo, se coincide la vaccinale mi hanno chiamato. Roberto, ci sei? Cioè, allora Gianni, un saluto, ciao Massimiliano, ciao a tutti quelli che stanno ascoltando. A tra poco se coincide, ciao Gianni. Ciao, mi prendo io con la carica e a dopo, va. età Massimiliano, che a te è buona considerazione, avanti anche tuo Brodino. Io si è spostato, ho riprendendo l'altro QTH. È vero, è vero. Ma l'antenna l'ha più attaccata, a me me ne so farà di. Me ne farà di una sua radiale, sono rimasto con due adesso. Già, se deve scendere una radiale, il lavoro non è andato a buon fine allora. Io li avevo montati sulla mantova a turbo, perché non ne aveva neanche uno quasi, nel mare veniva il suo 8, ce n'erano due, e hanno durato anni. Dopodiché si è fatto la vita dell'antenna, e allora ho messo la mantova 1. Quindi bisogna fare un altro sistema allora, a bullone passante. Ah, erano già con bullone passante, solo che dove fai il buco? Le parti laterali rimangono più fine, capito? Quindi balla si spezza alla fine, non c'è come l'alluminio. Infatti lo volevo mettere in alluminio pieno adesso. Beh, alluminio pieno, ma il pezzo che mantiene deve essere riportato, però o le fai una saetta sotto tutta in giro, te la fai fare da Fabrizio, perché sennò ti si spezza lì adesso. No, Gli ha messi coso, Gio Maria ha detto che ce li hanno, non si sono spezzati, che quelli lì gli hanno durato un bene, ne ha due mi pare così, l'alluminio pieno e gli altri sono origine ancora, quei due che ce l'hanno tutti li ha messi l'alluminio pieno. Vabbè, io adesso li diciamo tutti, no? Non so come dare, c'hanno già il buco, bisogna fare il buco nel radiale e poi accorciarlo, fare la misura. Vabbè, aspetta una di queste giornate belle e poi si fa, si abbassa un attimino e si vede cosa deve fare, capito? Se va a isolare si isola e si mettono rinforzati e vedrai che non te ne ingaggi di più. Va bene, dai, vado a mangiare, ci sentiamo già, a frappè. Ciao, comunque segnale lo stesso. Prova. Guarda, vabbè. 1, 2, 3. Sì, tu o la grande, ma non serve a niente, i radiali servono per piano di massa, se le stazionali sono buone e se lavorano bene col piano di massa, l'antenna anche con lo stilo verticale va bene lo stesso, no, non influisce. E vabbè, non ho peccato perché l'antenna non va nuova, sta rifatta bene, capito? Adesso un peccato voleva settare radiale, a me mi guardi male a dire la cucina, non mi piace. Devo andare a comprare radiale, non li vado, li avevo già comprati in alluminio vuoto, ma non li rimetto. Non li rimetto per semplice motivo per fare la stessa fine degli altri. Quelli in alluminio pieno, però quelli più fini, quelli fini, che innestano su quell'altro, capito? Vedrai già ti durano, ci sono quelli in alluminio pieno. Leggermente più fini, praticamente della stessa dimensione di quelli che erano in fibra, per capirci. E beh, adesso ho colato come? No, ci vuole della grossezza sua, come sono gli altri, beh, li metto. Il pezzo che è avanzato molto lo tolgo fuori, basta sburlonare il burlone passante e tirarlo fuori quello là. Allora non è fatto come l'ho fatto il mio. No, io l'ho direttamente lasciato la cassa nella mantova tubo, l'ho lasciato direttamente la cassa sua, tagliati tutti a misura 10 cm pezzettini e poi entrati dentro quelli leggermente più piccoli col bullone passante. Hanno durato un'eternità, capito? Perché non flettono, sono praticamente dal piantone attaccati, c'è solo 10 cm di radiale leggermente più grosso, andava dentro sino alla fine e poi col bullone passante stringeva quelle viti di colline passanti in acciaio inossidabile. No, noi ci abbiamo messo proprio un bulloncino cordato, bullone passante cordato, ma se il materiale è resistente, tiene, capito così? Se è pieno ha più tenuta, ma se è biondo, fletti oggi, fletti domani, col vento che ha fatto, anche a Leoncino gli ha buttato due radiali. E io ho capito, tiene sì, però bisogna vedere, io l'avevo fatto in un modo diverso, questo non ho capito come ho fatto paura. Si è praticamente attaccato alla fonte della piatta, pronti? Io. è arrivato qualcuno sul 12? Niente, ci sono. Ma no, perché mi sono allontanato un attimino. Mangiato, vabbè. Dimmi già. Ho letto, mangiato. Mi è arrivata la pizza, adesso l'ho mangiata al volo. Però non c'è l'occhio. Sbranato, mangiato. Bravi uguali, quando c'è fame, aia, quando c'è fame mangi un bel veloce, e non va bene mangiare la veloce la roba, soprattutto quando c'è roba tipo gorgonzola e prosciutto crudo che sono poco bizzarri. Io poco fa cenando ho corretto a Marco, devi mangiare piano, perché se tu non mastichi la roba, poi ti va intera e ingrassi il doppio. Ma a parte quello lì, fai lavorare lo stomaco male, cioè tutta la cosa, non devi dare il tempo di sedere, è come una cosa, una macchina, se tu non la masticheggi tutta quella roba grossa la metti e fai lavorare doppio lo stomaco. E poi ti vengono bruciore di stomaco perché butta succhi gastrici eccetera eccetera, e lo so un po' meno, è una cosa già che sto pazzendo in questo periodo, vabbè, purtroppo... La notte io non sto più digerendo bene, mi devo mettere in testa per mangiare leggero, non digerisco più, no. Mi sta sullo stomaco la roba, più tutta notte gira di più di gira, con questa pesantezza di stomaco la notte mi sono andato a fare una camomilla perché non ce la facevo più a dolore di stomaco. Già lo so, ce ne so qualcosa anche io, anche per tenersi un po' cauti, vabbè io il sabato, più che altro la mangio la pizza, diciamo, perché la notte cerco di tenermi cauto, ed è normale, detto da tutti i medici più importanti, cioè la notte bisogna mangiare leggero, i pasti principali vanno fatti di giorno, in modo che c'è tempo di smaltire tutto e quanto. Poi c'è da dire, tutti i pasti, tutta la roba che stiamo mangiando è tutta roba conservanti, sostanze additivate, eccetera, eccetera, per cui non stai mangiando cose sane. E medicinali che prendi anche, io prendo anche medicinali, quindi... L'ulcera è all'ordine del giorno, le ulcere dei medicinali sono molto, diciamo, frequenti, anche mamma se l'aveva presa un'ulcera nello stomaco dai medicinali che prendeva, questa medicina per l'osteoporosi era potentissima. Qua mio padre c'ha l'ulcera da quando aveva 21 anni, l'avevano operato e poi richiuso, lo racconta sempre. Lui da quando c'ha quelle, diciamo, ti posso dire 30 anni, quanti ne ha adesso, deve fare 80, 50 anni che prende, non sai cosa si prende, tutte le notti prima di andare a letto, mangia leggero un po' di brodo, cose leggere, proprio una cosa minima. Lui per dire però roba piccante, tutte queste cose, non ne prende mai neanche a vederne. Tutte le notti si prende, non so se conosci la paritaria, un tastone di quella lì. Fa il schifo solo a vederla, la fa mia sorella, che va mia madre, anche mia sorella, la mettono a bollire proprio a consumarsi, e poi con questa roba qua prende e beve un tastone la notte. Dice l'unica cosa che gli fa bene. La brigurosa. Ovviamente è stata brigurosa. Lui, lo sai quanti medici, amici suoi, gente che gli hanno detto prova, ecco, gli hanno detto veramente efficiente, efficace. E che ne aveva fatta questa cura? E mio padre perché? Non aveva trovato questa cura per le muri. Questa erba, tipo erba grassa che cresce sui muri, ti faceva bollire questa cosa. Ha provato mille medicine, non li passava. Ha provato questa cosa che si ricordava che usava il nonno e cose. Beh, l'ha trovata, ha detto questa qui era la pianta, vuoi vedere che è questa qui? L'ha provata, mi sono passato le muri, ha detto di mani. Da lo so, ma ha detto anche Luca questo fatto della pianta, non me lo ricordo, ha detto che lui non ne riusciva a cavare più, di questa ragazza gli ha dato questa cura, ha detto prendi questa roba, ma questa della paritaria, o come si chiama, rigorosa la chiamo, dai, la paritaria detta in Italia, lo sai quanta gente gliela ha copiata a mio padre, dice una cosa schifosa, però lui fa l'esempio, tu non so se l'hai mai visto il cane, noi ce l'avevamo anche un cane tempo fa, lui andava a cercare la posta al cane per purificarsi, e andava, insomma di lì dove stiamo noi ce ne sono, cresce spontanea vicino all'officina, andava a cercare questo tipo di erba, perché ed è un animale, non è un cristiano. Ma loro c'hanno come istinto, vabbè, anche mangiano anche l'erba per purgarsi, capito? Mangiano questi tipi di erba per purgarsi, loro le conoscono, c'è poco da fare. E sono cose antiche che, per dire, tu lo sai che l'ortica, però la femmina dell'ortica, io avevo un amico che la usava per rinforzare i capelli. Io mi sono comprato un libro, si chiama La medicina della nonna, un volume grosso, saranno 200 pagine, e ci sono le cure di tutti i generi, da mal di testa a dolore di piedi, dolore di tutto, raffreddore. sono delle cure allucinanti. Nel coso, come si chiama? Addirittura prende una mela, c'è scritto di prendere una mela, quelli che soffrono carenza di ferro e cose del genere. Tu prendi una, come si chiama, un pezzo di metallo, una rondella, naturalmente la lavi bene, la lasci dentro questa mela, questa qua, per un paio di giorni, questo pezzo di metallo, e poi ti mangi la mela, dice non so di quanto ti aumenta la percentuale di ferro. Perché non è che attira il ferro che c'è nella rondella? Perché arrugginita, mi dice, se arrugginita niente, la togli, dice, tanto una volta che tu l'hai disinfettata, cioè per dire, l'hai messa a bollire questo pezzo di ferro, se lo metti all'interno del coso, dice, sono delle cure eccezionali per gente che soffre di ferro, carenza di ferro. A mamma, un erborista, una volta c'ho il braccio che non riusciva a muovere. E gli ha dato la foglia del capo, il capo la foglia, no? La foglia, di mettercela per il verdone che mi passava. Però mamma non ha aspettato che facesse effetto questa cosa. E ha chiamato anche il dottore, gli ha detto che non riusciva più a muovere questo braccio, l'ha impressionata. Infatti il dottore l'ha visitato, l'ha ciappata la gamba. E questa cosa cos'è? Beh, te la dico una cura, tu ti metterai a ridere. Noi per questo risposto. Molte volte i segreti, le cose te le racconti, qualcuno ci scherza. Te lo dico perché io personalmente non l'ho fatto, però l'ho fatto fare sia a mia figlia che a mia moglie questa cura. Non so se ti è capitata mai una distorsione, che ti si gonfi il piede, dimmi. Mia moglie. Ma allora normalmente si fa per i giocattoli, altri non ti hanno continuità perché per dire ti riposi e non per dire, ti prendi 2 o 3 giorni di riposo e rimani. Però un giocatore che ti serve per la partita, per dire ti si fa male in allenamento il venerdì e ti serve per la domenica, non hai modo di sgonfiarli la cosa, non sai cosa fare. Prendi un coso, una pentolina, ci metti un po' di aceto, lo fai leggermente tiepido. Poi prendi tutto questo coso qua, ci metti all'interno, come si chiama, ci butti un po' di pane in modo che si sciolga tutto questo del pane e faccia tipo una pastina così. Prendi tutto questo miscuglio, questa roba aspetta fatta così, che deve essere un po' caldino, se lo metti dentro una busta, che non sporchi dentro, la busta sigillata, ci infili il piede dentro e ti chiudi il piede con questa roba qua. Tu lì domani mattina ti svegli col piede sgonfio e vedi che c'è la pelle tipo, c'è presente un cadavere che ti fa tutta grinzita, tutta quanta piena di glumi, ti distrugge completamente il coso, la coagulazione del sangue. È come quando poi esce la pelle, la metà di vita si fa bianca. Che sto dicendo già, tu quando vedi la pelle, cazzo, era successo a mia moglie, cazzo, mi ha fatto vedere le cose, era allucinante. Sembrava con la pelle, e vedete quando prendi freddo che sei al mare, che si fanno tipo, però, arrozzata tutta quanta piena di cose, sembra una pelle di uno zombie, ma fa un effetto allucinante, ti sgonfia completamente il coso, ti toglie completamente il gonfione, l'ematoma interno, il coagulo interno, te lo scioglie. Io ho avuto un ematoma, non bene, si sono associato in un ospedale, quando sono caduto in moto, un ematoma che mi prendeva dalla pancia, mi andava nelle parti basse, e mi riempiva la pancia, tutto il petto e nel fianco. Già me l'avrebbe detto, un pezzo me l'avrebbe anche fatto vedere, mi pare. Diciamo, bisogna stare attenti con l'ematoma, soprattutto quando sono in punti critici, dove ci sono organi interni o cose del genere, non c'è da scherzare. E poi me ne hanno detto un'altra, contro l'influenza, per dire, per tenere lontano il virus dell'influenza. Adesso non mi ricordo con come lo devi fare esattamente, però me l'ho scritto da qualche parte. Prendi una cipolla, la tagli e la metti dentro un piatto, dentro in ogni stanza ne metti di questa cosa qua. E ci hanno fatto delle prove proprio scientifiche, in famiglie dove c'erano state delle epidemie di influenza, in posti dove è morta tanta gente, dove c'erano questo cavolo di discorso con la cipolla, non si è mai verificato il caso di influenza. Magari che noi allontanano il virus. No, che dice che assorbe il virus, non lo so, ma guarda, sto scherzando, sto parlando di cose scientifiche, non di cose di balle che si dicono in giro. Cioè proprio, ho fatto una prova in questo, ma stiamo parlando dei tempi antichi. Dice, in questo villaggio erano molte, non so quante persone, a questo quale aveva detto, questo anziano, ha detto, no, se tu vuoi scappare, siccome l'influenza è tipo la peste, la malattia che ha fatto morire più gente nel mondo, milioni e milioni di persone sono morte per il virus dell'influenza, perché prima non esistevano le medicine, le persone erano più deboli, non avevano gli anticorpi, non c'erano antibiotici, non c'era niente, e morivano a nastro, e c'era stata un coso, come si chiama? un'invasione di questa influenza in questo villaggio. In questa famiglia che aveva nato, questa è stata l'unica famiglia che si è salvata, nessun familiare aveva preso l'influenza, quasi tutti, la maggior parte era morto in questo villaggio, qualcuno riuscito a salvarsi, però di lì non è proprio attecchito il virus. Ma le zanzare si usano anche per allontanare le zanzare di notte, quindi nei campeggi usano l'aglio per allontanare le zanzare. Dove c'è l'aglio non si avvicinano, lo pungono la gente. Dove non ce n'è la pungono. L'aglio, così, lo metti così l'aglio. L'aglio lo metti addosso, avrai puzza di aglio, però quindi non mangi a tirare. Lo metti addosso e le zanzare non si attaccano. Ah, facciamo una lavata, ti lascia lì, noi l'aglio ce l'abbiamo in un angolino in cucina, c'è una specie dove mettiamo le passate, le cose del genere, e c'era l'aglio, che ha detto, ma la zanzara già aveva visto, infatti ho detto, strano, mi stavi dicendo una cosa diversa da quello che ho visto. Beh, ma noi in campeggio lo usano, capito, lo ce lo passano un po' addosso, in modo che abbiano puzza di aglio e non ci avvicinano le zanzare. Ci sono tanti metodi per guarire senza prendere medicinali. Adesso dice che hanno fatto una mezza scoperta che per il diabete. Non so quante cose ci sono, medicine alternative e cose che neanche ne sappiamo, perché queste case farmaceutiche hanno il monopolio, a loro gli conviene farti comprare medicina, capito? Se trovi, perché dire, per la cura del cancro, dice che esiste dalla seconda guerra mondiale, un tedesco l'aveva inventata, e troppo hanno tutto seppellito, la Bayer, perché non gli conviene, come adesso ci sono altre cure per altri tipi di malattie. Non gli conviene, le grosse case farmaceutiche, come si chiama, fanno di tutto per boicottare, è come la questione delle macchine elettriche, magari è un macco dei petrolieri che ti fa, adesso per la sigaretta elettronica, quanto hanno diminuito le sigarette, adesso ne stanno trovando di colori, di pezzi, cancerogeni, chi da chi da, non gli conviene, mentre le sigarette sono sane secondo loro. Io ho mollato tutti e due per ogni evenienza, Roberto. Con l'elettronica un giorno stavo fumando a letto e me la sono dimenticata, di notte l'ho craccata. E se sei venuto se ti chiamavo? L'82. Anche quella dicono qualcuno, ma naturalmente bisogna capire cosa prende, se andi da Regine a comprare altre cose devi stare attento. Io ho visto una scena, cambiando discorso, non è sigaretta elettronica, una fotografia di questo ragazzo morto caricando il cellulare, stava ha risposto al telefono col cellulare in carica, stava una di queste batterie cinesi, gli ha esposto il telefonino in faccia, tu devi vedere come ha fatto, lui è morto tutto ustionato, completamente sfigurato, e devi vedere come ha fatto il letto e la camera, Maria era, che ha messo tirato una bomba a molotov, l'ha sfigurato questo ragazzo. Infatti non si deve mai telefonare col cellulare attaccato alla corrente elettrica, è quell'effetto che può fare, ma io ho visto anche questo qui che fumava le sigarette cinesi, gli è scoppiata la sigaretta, forse la batteria che di quelle ronfie, le ha scoppiate in bocca, gli ha tolto tutti i denti e il labbro, gli ha spaccato. Figurati, mamma mia, io già non ho di questi problemi, già, ma come io non fumo. E te l'ho detto, io li ho abbandonati tutti e due, poi ci sono dei momenti che magari c'è più bisogno perché sei nervoso, oppure perché sei di malumore, o cos'è, ti viene qui da fumare, capito? Vabbè, purtroppo c'hai il dito, te la sei preso. Peggio per te ti dico, là, non ti dico buon per te, peggio per te, perché diciamo sono cose, a tutti può capitare. Ok, stavo dicendo, ma la droga che te ne ha fatto? Droga si stava trasferendo da una casa all'altra, e lui è l'uomo che si sposta da stazione a stazione, e quindi ha detto che dovrebbe riprendere un'altra casa, ma io la parola di Antonio non la credo molto. Antonio, stavo parlando proprio di quello prima che ci fossi tu e Claudio, proprio di quello. Cacca giudizio, esci una volta che oggi l'ho sentito perfettamente, stavo uscendo bene, pulito. Ecco, rimani così, non toccare, allora, poi il giorno dopo. Dice lui, dice io ci prendo gusto a uscire male, mi piace provocare. Cappa gappa. Oh Gianni, ho trovato un altro sito, dove ci sono modifiche, apparati, tutto qua. Guardati questo, se ti piacciono i baracchini, si chiama cbradiomagazine.com. Esatto, quello lì ci sono tre agli apparati, microfoni, addirittura ho trovato tra le più tre tutti i dati tecnici, che non lo sapevo, il guadagno, il risposta in frequenza, l'assorbimento, tutto quanto, cioè, che tipo di capsula usa, perché tutti parlano del tunnel, dei microfoni, però non ho mai visto le caratteristiche tecniche, non le ho mai lette quasi da nessuna parte di microfoni, del tunnel più tre ho trovato tutto. E una rivista americana mette il traduttore, ti traduce, e ci sono le prove di centinaia di apparati, proprio le prove tecniche. Per dire, c'era la tipologia del President Jackson, il Saturn Echo, quello nuovo che hanno fatto, sono un sacco di cose, veramente una bella rivista. Ho messo, naturalmente la traduzione non è al 100%, perché molte parole elettroniche non esiste l'equivalente in coso, in lingua italiana. Ho capito. Magazine, come si scrive? Magazine, si chiama tutto attaccato CB Radio Magazine, www.cbradiomagazine.com, e c'è di tutto, dai microfoni, antenne, accessori, alimentatori, quindi è una cosa impressionante. Ci sono, addirittura c'è la prova dell'antenna italiana, una Sigma, no, non Sigma, adesso mi ricordo che antenna era, forse Sigma, boh, non me lo ricordo. Perché in America è travenduta, lì c'è la migliore antenna, anche se costava poco, e poi ci sono certe antenne di quelle, come si chiama, quelle quad, quelle grandi, le cubiche, cose da paura, poi microfoni, qua, è proprio la rivista che esiste dal 1970, ci sono anche, per dire, è mensile questa qua, e ci sono le, per dire, il mese di febbraio, tra l'uccidio ci sono vecchi baracchini, vecchie cose, e poi ci sono le prove. Ma in vendita non c'è niente. In vendita non c'è nulla. No, no, una rivista, come può essere, anche posso dire, quattro ruote, l'hanno riportata su internet. Ci sono anche le sezioni, vabbè, però qua stiamo parlando di roba vecchia, c'erano baracchini vecchi, cosa ti sto dicendo? È bella perché vedi degli apparati, tipo il DAC che sta dicendo Claudio, vecchi Sommercam, Kenwood, eccetera. C'è addirittura un ICOM baracchino, non baracchino, è un HF, però lì lo usano come baracchino, l'IC718 si chiama, non lo conoscevo, per usarlo in 27, l'hanno vantato tantissimo, bello, piccolino, tipo, cosa ti posso dire, come dimensioni, metà del 440 è un po' più basso, però bello, un ICOM. Come me lo racconto, non penso bene, la gara di entrare. Adesso devo trovare il metodo per mettere queste cacche di radiali, non ha mai, li ho messi in mobile, sono più riusciti. Ne hai preso le radiali dalla testa? E allora, con quel vento, il tre me ne ha buttato giù. Ma tu la sai, la turbo o la 5? La 5. La rotta radiale. Praticamente, allora io quella di la 5 l'avevo scesa per pulirla, dammi una sistemata, gli ho cambiato la parte dove attacca il PN, ed ho messo un carretto nuovo, quello della massa, le fascette, eccetera, eccetera, in acciaio, ma tutto ripristinato, insomma. E i radiali erano vitrificati, quindi li ho pronti, togliendo l'uno si è spaccato, quindi li ho messi in alluminio. Ho fatto un buco, ho messo un bullone passante con un dado, erano ben incastrati pure, io non so come l'ho fatta uscirne. L'alluminio, lo sai, succede già. Quando lo fai, l'alluminio hanno disatto, se tu non lo tocchi, riesci a tirarlo così, che può durare anni e anni. Dal momento che tu lo furi si ossida perché non c'ha più la protezione e viene giù tutto. Bastano un paio di anni che si crepa. E quindi come si potrebbero mettere questi radiali? Però bisogna cercare di originare il radiale, se li vengono me li compro originale, io devo fare. No, glieli puoi mettere pieni, ti prendi il tondino pieno e glielo fili pieno. Quando glielo fili devi fare sempre il buco per mettere il bullone passante, siamo sempre lì, ci si dà il nuovo. Sì, ma già una cosa è per dire 4 mm di spessore, l'altra cosa 10 mm quanto il tubicino d'alluminio. E bucare quello è un casino, fare il buco su quel radiale lì, pieni è un casino, come ti vuoi? No, se è alluminio, l'alluminio lo buchi come più morbido del legno, se lo fuori immediatamente, è morbidissimo l'alluminio, non è che stai bucando ferro, non lo buchi immediatamente, quindi una punta aggiunta naturalmente devi scendere dritto dritto. E un cappanacone ci vuole per bucarlo bene. Ma può fare direttamente sull'antenna già, lo infili dentro o lo fuori direttamente dall'antenna? Allora, devo prendere un radiale, tutto lo ricordi la misura del radiale, la lunghezza della moto 5? Guarda, non me lo ricordo, ma mi sembra intorno al metro, ossia un metro e cinque, una cosa di... bisogna sapere la misura sicura, perché mi devo tagliare la misura prima di portarmi su, perché su viene male a fare questi lavori. Sì, intorno al metro. Comunque non è critica la misura, tieni presente, dei radiali. Critica l'altezza dell'antenna e la carica, quello è importantissimo. Questo è un piano riflettente, non ha nessuna funzione, anche se fosse un pochettino più corto, o ne è uno e meno, non è che ti cambi più di tanto. Non è una cosa critica. Siamo nel mancano 3, il segnale è uguale. No, diciamo qualcosina perderai, è come uno specchio perché c'era in mezzo filato, ti perde un pochettino, ma non pensa che per dire, se ne hai 5 o ne ho 4 dei radiali che ti cambi qualcosa, non cambia niente, sono cose impercettibili. Allora io non ti dico la verità, ne ho caduti due, sono andato e mi dicevo dei compatti nuovi, dei compatti di là in legno. L'altro giorno mi è venuto con l'ultimo piano, mi ha portato un terzo radiale, mi ha detto basta, non le metto più così fini, se li metto un ferro in alluminio pieno, e li ho messi da parte perché tanto è inutile che tu li metti uguali per poterci di nuovo. No, ma guarda, non è critica la questione, perché ti faccio vedere progetti di altre antenne simili alla Mantova, sempre 5 ottavi, ne hanno chi uno, chi due, chi non ne ha niente, è una cosa così, a livello prestazionale non è che cambi più di tanto. Addirittura la tubo l'ha visto come ce li ha piccolini, molto più corti. Ne ha tanti, ne ha 9 mi pare. No, ne ha di più di 9 mi sembra. Adesso non me lo ricordo, ma forse ne ha di più di 9. Ma io te lo dimostro perché me l'ha dimostrato anche Coso, come si chiama? Massimiliano Archimede. Quando l'ho fatto l'antenna con la canna da pesca, ne ho messo 4 i radiali. Non cambiava più di tanto, li giravi da una parte o dall'altra, li ho provati tutti i muri, perché io ho detto, ma le devo mettere per forza, come si chiama, perpendicolari a terra, al terreno, belli aperti, distanze, assolutamente, li puoi buttare, noi lavoriamo per certe distanze, anche per frequenze più basse, buttato in spiaggia, lui attaccava l'ombrellone, lo buttava così, uno da una parte e uno dall'altra, non cambia niente, diciamo, è un piano di massa, un collegamento di massa. Sono molto estetica, l'antenna me l'ho fatto tutta nuova, Fabrizio, alle mani d'oro me l'ha fatto tutta perfetta, tutta rimasta bene, tutta... Insomma, ti stai uscendo dalla fabbrica, c'era pure questa bella luce dall'antenna, l'ho tutta levigata con l'acciaio pieno di CRC, quello tutto ha messo il grasso di vasellina, tutta sull'antenna, il grasso quello... come si chiama, e lei ha consigliato Massimiliano Archimede al Cilicio. Ma quanti anni ce l'hai con l'antenna? 13 anni, 14 anni. Ma questa volta che l'avessi messa dopo di me, figurati, io l'ho messa nel 2004, fino al 2004. Poi te, e sono stato il primo io a avere l'antenna sul tetto dopo che hanno preso la frequenza, il primo a piazzarla sono stato. Oh, pensavo l'avessi rimessa da poco, io lo sapevo, tu c'avevi l'antenna, però mi ricordavo che nella parata, da che cosa l'avevate rimessa? Ma l'abbiamo scesa per pulirla e ripristinarla un po', abbiamo messo le fascette nuove in acciaio, abbiamo messo il piano dove attacca il piede nuovo, il cavo che va dentro di massa nuovo, insomma abbiamo fatto un po' di lavori. No, l'ho capito male. Coso, che l'aveva messa l'ultima Mantova che abbiamo piazzato, che ho visto piazzato era Coso, Mario Manser, che poi si è messo la turbo e andava a peggio della Mantova 5, tu ricordi? Non è piacevole, ma ha detto che certe cose che prendeva prima con quella non le prendeva. Dicevo, con questa cosa con la avevo prima non avevo problemi a arrivare in certi paesi, invece con questa è un casino. No, guarda che è vero, è solo pubblicità la turbo, me. Secondo me è solo pubblicità, la dichiarano più performante e cosa del genere, però la Coso, la 5 e la 1 vanno meglio come tipo di antenne, ma lui l'ha dimostrato, perché anche a me il segnale suo mi arrivava di meno, pur lo stesso posizione, stesso baracchino, tutto quanto, ho notato che c'erano differenze. E poi lui era Mario, non per vantare a lui, era uno di quelli, per non dire il più forte di tutti in assoluto della zona della Teroce, nessuno arrivava così forte come lui, proprio pulito, forte, e riusciva a parlare per dire con Mususò, e nessuno di quelli di quella zona lì riusciva a parlare. Lui ha anche una voce bella grossa, capito? E anche con l'amplificazione era buona, arrivava forte. Che fine ha fatto non si sa, no? Guarda, mi sono promesso, lo devo chiamare, perché ho detto, lo voglio sentire per capire cosa è successo, anche non ha subito inteso, era passato, ti ho detto, verso ottobre, novembre dello scorso anno, e in officina mi aveva chiesto un atleto che stavano facendo una caldaia, non mi ricordo cosa voleva, un pappagallo, forse un martello, e gliel'avevo dato, però da quel giorno non l'ho più visto. Volevo capire un po' cosa succede. Lui aveva un lineare allucinante da 1000 watt. 1000 watt effettivi, è transisto, era una bista, aveva pensato anche a San Vattore Branca, un giorno l'ha collegato, la paura come arrivava da 80. C'aveva un ZG con un trasistorizzato, nel 2001. No, non era ZG, no, un altro marchio. Come ricordiamo, il 2001. No, ma quello sta a 200 watt, tira 300 watt, non lo so, stiamo parlando di una cosa enorme, una bestia. Se avevo un 2001 da 1000 watt. Ma dove 1000 watt? In banda laterale, forse. Attenzione, Roberto. 600 me da in AM. Assento, Roberto. Che ciao a tu, c'è anche Gianni. Buonasera. Come sento bene? Cosa tu? Ti sento un po' disturbato, cosa hai detto? Tutto bene, Roberto. Sì, tutto quello bene, ciò che è bene, dai. Aspetta che abbasso appena di la cosa. Scusatemi un attimo, tiro un peluzzino più. Appena che qua, se no. Come scalda un pochettino te ne dà qualcosina in più. Gianni, tu come lo stai uscendo? Cosa? Cosa stai utilizzando? C'è per lo stesso apparecchio. Ma? Sì. Ah, il Saturn è col tuo, non lo stai più usando già. Non ce l'ho più, l'ho venduto. L'hai venduto? Non sapevo, ma come l'hai dato? 2,21. Scusa, non ho capito? 200. L'hai venduto tanto, quindi era buono il tuo, no? Io non ci avevo una pecca, niente, non. Me l'ha detto una persona, un Saturneco con i finali rotti, 200 euro, ma stai scherzando? No, sono messo a posto, lo vendo 400 euro. Dì, cazzo, Giudice, cos'è? Una cazzo? Ho capito chi è già, uno con i baffi. Baffi? Sembra che abbia i baffi di Corvitre. Vabbè, dai, non diciamo altro. 300 euro, che è esagerato, anche su Rebino stanno andando 320, 400 euro con 10 modifiche, però lo sono dato. Ah vabbè, lasciamo perdere, è un bello apparecchio, niente da dire, ma 400 euro li trovi già un 440. Devi considerare, Rubè, che quello lì a sua condannato costava la bolletta di 700-800 euro, una cosa, 800.000 lire, una cosa del genere. Io non so che cosa, ma i baracchini costavano tutti già a me. Non pensare che adesso costino di più i baracchini, cioè in proporzione un baracchino di adesso costa la metà di quanto lo pagavi 10 anni fa, considerando gli stipendi e il potere d'acquisto. Beh sì, in effetti è così. Mi piace troppo quel Galaxy nuovo, io ci vedo un bigliato, è frutta. Quando esce me lo prendo. E quello è benissimo, poi l'hanno fatto ergonomico, proprio facile da utilizzare, eccetera, eccetera. L'hanno vantato, infatti su questa rivista l'hanno vantato bene, perché Saturneco, quello grosso, quello bestione, era un po' scomodo per molti, poi invece hanno fatto tutto a portata di mano, facilissimo da usare, le funzioni importanti in prima vista. Per girare un po'. Vai a tu. Visto che c'è una bella, c'è gli strumenti grandi, per charge V, segnal, è carino. Sì, sì, anche se è esageratamente grande, poi lo apri il Bluetooth retro, è tipo il Pluto, non è così già. È proprio quello il bello, ci puoi mettere un lineare all'interno, ci puoi fare lavoretti, ci puoi mettere camera ecco, se vuoi, insomma ci puoi mettere un po' di roba, la ventola per raffreddare. Io l'ho visto questo qua, con 10 modifiche, c'aveva due ventole, camera ecco, canali, mi pare che avevano 45 metri, non so come, tutto fatto la modifica, c'avevo un sacco di roba, vabbè, questo qui stavano 400 euro, poi era completo, ne aveva poca di roba, anche se ti devo dire la verità, mi piace più semplice. Sì, infatti sa quello di buono, ha detto bene, se ci vuoi mettere un bel filanone dentro, un amplificatore dentro, con l'alimentatore magari, potenziando l'alimentatore ci può lavorare benissimo, è molto spazioso. Però a livello di funzione è come il Pluto. Chi sta chiamando? Avanti. Che è? Avanti sul giudice. Che è? Avanti. È su Calatù, imbecille. Mi sembra spagnolo questo, avanti compagno, avanti. Certo, avanti al compagno, se scusi l'Italia che mi ha chiamato. Come vedi che non c'è Grode? No, non è Grode, non è Grode. Vabbè dai, se vuoi entrare, non è Grode. Il tuo cuore è altissimo oggi qua, non so voi. Anche io ce l'ho sempre con 4. È una giornata strana, poi quando ci sono queste giornate calde e calde che poi si scontrano le perturbazioni fredde, fanno delle giornate strane a livello elettromagnetico di propagazione. Capogatto. Speriamo che arrivi questa propagazione che ancora molti anni in primavera si sentiva già. Quest'anno io non ne ho avuto l'occasione, io non lo so. Ma io ti dico una cosa, la propagazione è bella per certi versi, però per certe altre volte, per esempio, quando ero giù al mare era un rompimento di scarpe, non riuscivo a sentire niente, era un disturbo continuo, cioè alla fine spegnevo il baracchino, io l'anno scorso non l'ho per dire portato, perché mi ero rotto le scarpe dall'anno prima, era uno sopra l'altro, accavallato, non riuscivo a avere quella propagazione, per dire, quando per dire colleghiamo la Spagna, che c'è solo la Spagna, senti quel canale lì e buh. O altri due canali vicino, è tutto un miscuglio di frequenze, di stazioni di altre nazioni, non si comprende nulla. Vai a parlare, no, se uno magari ti risponde un altro, dice avanti Italia, poi c'è l'altro che parla sopra, poi l'altro ancora, non si comprende nulla. Per dire come era l'altro giorno anche qua. Io non so, nel 45 c'è un bailare. Ma abbiamo fatto anche dei questioni normali, come stiamo facendo adesso con gente continentale, fatecene anche quello. Beh, io preferirei parlare con qualcuno del continente anziché parlare con, per dire, con la Spagna o cose del genere, in modo che il dialogo può essere anche più prolungato. Mi ha detto, stavo parlando discorso, c'è Cecilia Caigenge, l'Italia è il primo ministro di colore, cioè abbiamo una tipa di colore del Congo, 49 anni, oculista, il primo ministro di colore italiano. Quindi? Certo, proprio africana, c'ha proprio la faccia da africana, bella faccioccona, tondeggiante, non c'ha niente a che vedere con gli italiani, almeno esteticamente. Vabbè, penso perché sei intelligente che riesca a proporre qualche cosa di buono. Dice fa l'oculista, allora è neo responsabile dell'integrazione, è nata in Congo 49 anni fa ed è un oculista, modenese, militante del DS e poi del Partito Democratico, è molto attenta ai diritti dei migranti e si batte per il riconoscimento della cittadinanza. Altre sei donne al governo. E c'è vero. Beh, ti era questo mulino, no? Normale. E avanti, chi chiama? Non lo so chi sia, sta chiamando però non riesco a capire chi sia. Sicuramente non è il Grodia, ma anche non sta facendo il furbetto, ma a me barettano perché è troppo basso il segnale. Ma lui la batta, lo ha per fare scherzi che ha invece a farli. Cappagna. Comunque tu, la sera della propagazione, vabbè, è così. È così. Quando c'è quella continentale che si possono fare questioni è meglio, perché tanto come quelli di fuori lo leggi due parole, sono costruttive, le solite cose, via. Sì, no, ma quando parlano gli spagnoli che un po' ci riusciamo a capire, però dici tre fesserie e boh, finisce lì come il tempo, come sto arrivando, il tuo segnale è buono, che radio c'è, finisce lì. Ma quando parli, e a me mi è capitata più di un'ora, sono stato parlando con tutta l'Italia in banda laterale, che erano tutti radioamatori, non c'era neanche uno di CB, ma sono stato più di un'ora, una cosa, posso dire, il più bel collegamento che abbia mai fatto, e mi rifiuto di aver parlato, anzi, un'altra volta ho parlato con questo della Patagonia, quello in assoluto lo stesso, uno dei collegamenti più lunghi, non c'era nessuno, era una giornata sana, lì dove non so che cacchio di potenza, cioè la potenza già me l'ha detto, non so che antenna ci aveva, era in un faro in Patagonia, vicino al polo sud, non so quanti chilometri dal polo sud, che era una cosa lucida, stava uscendo con 5100 watt in direttiva verso l'Europa, riusciva a parlare anche qualcosina in italiano, era da un faro in mezzo al mare, stava trasmettendo questo qua. Siamo stati più di un'ora parlando, abbiamo parlato di tutto, del tempo, del freddo, di cose, perché questo sarà già manetano, però quando parli con qualcuno di chi si, non dico tedeschi che non ne capisco niente di tedesco, e poi quelli sono stravaganti, non sono socievoli come gli spagnoli, però quando parli con i russi, con il coso, dici due o tre parole e poi finisce lì, non riesci neanche a comunicare. Quando siete tedeschi dico cartoffel, Volkswagen, telefunke. No, di NSU. E loro dicono Maccherone, una volta mi ha detto Maccherone, Italia, Maccherone. Un giorno a Platamona, siccome a Platamona arrivano fortissimo, proprio pieni in FM, alla fine dico sono arrabbiato, vai via Italia, e continuava così, ma io ero quasi apposta, rientravo, break Italia, Italia, stava arrabbiato, lo vedevi, alla fine mi sono stufato anch'io di rompere la scatola e me ne sono andato su un altro canale, ma proprio si è arrabbiato, Italia, non parlare. È un po' fuori in merda, gli italiani sempre ce l'hanno avuta. Io ho un amico che ha lavorato un po' di anni in Germania e una volta dice che andate in discoteca ma non lo vanno a picchiare, l'ho seguito, cosa, perché è italiano. Vabbè, ma poi ci sono tutte le parti, noi tante volte lo vediamo quando vengono gli stranieri derubati, violentate donne, ma le nuorese, tante donne tedesche, svedesi o cosa hanno violentato, gente col camper, picchiati, maniere di forza, e da tutte le parti ci sono gli imbecilli già, anzi ti posso garantire, preferisco 10.000 tedeschi a un francese io, come personaggio, perché i tedeschi almeno sono così, i giovani li conosco, francesi sono loffi, anche se sono amici francesi, eccetera eccetera, non gli posso dire niente, però preferisco più il tedesco, anche se di lì ci sono qualche tedesco come tutte le parti, anche di lì che vanno presi con le pinze, però il tedesco è così, è una persona particolare, è un carattere così un po', non so come descriverlo, diverso dagli altri, non è come noi, dai. Però preferisco più il tedesco io, quando vai di lì ti guardano in diverso modo, non c'hanno l'invidia, la gelosia, i francesi sono invidiosi di tutto e tutto quello che fanno loro è il meglio. E i tedeschi sono duri, come carattere, duri. Ma non più di tanto, guarda, io conosco anche persone, donne, di coso, a livello di uomini preferiscono 10.000 volte gli italiani, come carattere realmente, perché i tedeschi sono fisicamente potenti, forti, tutto quanto, e poi sono qua, in caso di difficoltà si cagano in sotto, mentre l'italiano è uno che si arrangia, riesce a trovare sempre la via di uscita, dai. Come mi hai chiamato? No, non sono. Perché sono andato... Mi hanno chiamato che dovevo fare una cosa e mi sono allontanato. Io vorrei fare una chiamata sul 12, se nel frattempo è entrato qualcuno, attenzione canale 12, chi vuole entrare, se no prendetevela come diceva uno, il logo di Postama, come diceva già. Natalina, eppure ci manca Natalina in frequenza, lo sai già, mi dispiace. Sì, da un bello non entra. Ci sono, non so, quelle persone che fa piacere ascoltare ogni tanto, che era un bel tranquillone, cioè, un modo, cioè sono quelle persone che mi piace parlarci, discutere, dai. No, non era di griglia bruttosi, di cose, dai. non voglio criticare nessuno, non sta mai giudicare, però ci stava bene, c'erano dei periodi quando c'era lui e altre persone che adesso non sento più, stranamente ci stava bene, anche se niente da dire adesso, anzi adesso per certi versi c'è molta più tranquillità di prima, meno affarraturi, perché c'era un periodo qualche anno fa, mi ricordo per esempio il portantista, il due che sbraitava, quell'altro che ce l'aveva contro l'altro, eccetera eccetera. Già rientrerà, se tanto Natalino secondo me è appassionato di radio più di tanti altri, faceva contest, come essere più belle, ha vinto anche diplomi eccetera eccetera, la radio gli è sempre piaciuta, solo che magari adesso non aveva sbucchi perché da lì dove abita non può mettere antenna, perché è tutto un altro grande e deve scendere tutto. E quindi sicuramente gli ho chiamato la me per far proprio. Sì, ma mi aveva detto che doveva ritornare a casa sua, la solita a casa, giù a Filighedo, non Filighedo, sì, Filighedo lo volevo, cos'era Filighedo, sì. Perché l'inquilino doveva andare via, invece boh, per quanto ne so io è ancora giù nella zona centro storico. Ok, lo stesso mi manca anche se ci sentiamo qualche volta sia per telefono che su internet, Salvatore Maestrale, quante chiacchierate ci abbiamo fatto la notte, durante molto ci sono, quello era adesso grandissimo appassionato Salvatore, ci andavamo fuori frequenza per dire su un canale più in basso, ci mettevamo con 0,2 watt in FM, proprio bassi, bassi, bassi, e riuscivamo, ma sai quanti corsi abbiamo fatto la notte? Uno per volta ho ascoltato anch'io, siamo sotto, so tutto, lo so, una brava persona, mi dispiace perché sa quanto cosa la torna, non sono d'accordo, Era una persona brava, veramente. Guarda, era come un fratello per me, Salvatore, fratello, tu con me, ti avrai sempre le porte aperte. E lui, e io sono sicuro, nel senso, per te, lo sai quante volte mi manda, vieni su da me, ti ho scritto io, non fai niente, perché lui adesso è in Austria. Non dico me lo dice una volta, ogni volta che mi vede, ma quasi sempre me lo ripete, vieni su, fatti un paio di giorni, vieni qua, non spendi niente, ti ho scritto io, c'ho la casa, poi mi ha fatto un sacco di regali, io l'ho aiutato per tante cose che ci arrivano a lui, proprio generosissimo, anzi burudrucu, molte volte infatti ci rimanevo male, prendi, non ti preoccupare, fai, non so tanta cosa mi ha regalato, di roba inerente al baracchino, cose che ti mette le mani in testa, non se ne faceva niente, te prendi, te lo regalo. Baracchini, antenne, di tutto, microfoni, cosa ti posso dire che non mi arriva? Poi non parliamo di altre cose, vieni qua, vieni in officina, prendi questo e mi dava la roba. Io quello che potevo ricambiare lo ricambiavo, però molte volte non sapevo cosa dargli. E me lo ricordo, fatto il tubo anche. Soltanto di quella roba di salvapedire, ma il campo è malato, il baracchino suo, nuovo fiammante, l'ARA 48 Plus, nuovo, non so quante volte l'abbia usato, con l'antenna, più malato. Cos'è che mi ha dato? Oltre che l'antenna, lasciami pensare, un'altra cosa nuova, mai usata, ma non me ne lamento che cosa era. Te, hai detto prenditela, poi cos'è? Lasciami pensare, lasciami venire in me. Poi non parliamo di tutte le antenne che mi ha regalato. Sono una persona squisita, perché ho fatto una sala più una marmita, praticamente non se lo volevano fare, una saldatura, la marmita della moto, e se si è tutto spaccato dove c'era la saldatura. Poi ho fatto fare la saldatura da un ragazzo, se no ha fatto dalla fabbrica perfetta. Tutto il cordone ben fatto, cosa deve essere molto bravo quel ragazzo, sono io, diciamo più, me ne intendo. E praticamente gli ho detto quanto mi ha detto, ma che pare che ti faccio pagare? Così te lo sarà guardo, gli ho detto. Vai già, che lo faccio pagare a te adesso, vai, ciao, fammi bene. Non so, ma non so quante volte poi, lui dice come facciano le centrali, non so quante volte ci sono sceso da lui per fare diagnosi, no, non è niente, tipo, ma stai scherzando, ma neanche a parlare, Poi io quello che potevo ricambiare per il mio lavoro glielo davo, ma più che altro era lui che dava, niente da dire. Poi tutte le antenne che mi ha regalato, quelle che ci aveva, dalla Mantova ai le cose, alle direttive, di tutto mi ha dato. Tu sei fatto, vai, pigliati tutto, paghi le antenne a cavi, di su che bello. L'unica cosa che non sono riuscito a prendere è deve essere una pizzicata con la per le V, l'antenna no. Non ce l'ho, dice, lui ha detto, già cerco accendere io, c'è per forza, c'è per essere per forza, però non l'ho trovata io. Però con la fila che abitava qua, a Ottavo. A Ottavo. Ma la casa con lei ce l'ha ancora? No, l'ha venduta, l'hanno divisa in due però. Peccato, non ho fatto la casa lì, era contento. Vabbè, lui ha avuto cose strane all'interno familiare, le parenti per eredità e cose del genere, perché c'era il padre in vita, riusciva a reggere tutto quanto. Poi come è andato via il padre, purtroppo, quando iniziano a girare i soldi si sono scarnati malamente, sono andati via legale, tutta una situazione malosa, per cui poverino, dai, ok, avanti al tuo ripreso. Scappa, come sta lavorando fuori? Sì, in Austria, tutta la famiglia, i figli, la moglie, eccetera, eccetera. C'è la nuora che è austriaca, il padre della nuora era direttore di albergo, non li abbia trovati, adesso me l'ha detto anche l'altro giorno, lui sta facendo, Salvatore sta facendo impianti fotovoltaici in un'azienda, e poi ha detto, se capite qua, regami in un paio e mi rimbiazzo nel camper. E il figlio controllo di qualità sempre nella stessa azienda, la certificazione con le ISO eccetera eccetera, la moglie lavora in questo albergo dove c'è la nuora, non so cosa fa, e l'altro figlio nominalmente me l'ha detto, adesso non me lo ricordo, e poi c'è l'altro figlio ancora che non so se sia della moglie, perché lì non ho capito, perché questo è tutto diverso dagli altri, probabilmente è figlio di altro padre, non lo so, quello lì non so cosa sta facendo, però quello lì fa il missionario. Comunque già stanno abbastanza bene, e ha fatto bene se a fare quel passo, se qua non andava più bene la situazione, ha fatto benissimo, guarda. C'è un po' di crisi, soprattutto in quel settore lì, i motori non è revisionato nessuno, il motore non rettifica più niente nessuno, il motore è in grande crisi, poi ha provato a Calangiano su Belgio che mai, alla fine ha mollato tutto, baracca e burattina, è ripartito lì e ha cambiato completamente il coso. L'unica cosa che si lamenta, dice, mi manca la CB, infatti l'altra volta mi sa che ho detto anche a te Gianni dei saluti, eravamo in chat, stavo parlando, ho detto salutami a tutti quanti, quanto vorrei ritornare a parlare, eccetera eccetera. E poi dice un freddo che è una cosa esagerata, è il mangiare, cazzo. Dice noi se ne alzano le mattine, non so che ora fare colazione, e alle 6:30 stanno cenando, 6:30 a 7 stanno cenando, dice la giornata è molto breve lì, è il giorno. Magari sempre voi secondo me cosa sbagliato lui a ampliare le cose, perché com'era andava avanti tranquillamente, invece poi ha voluto ampliare, come magari pensavo di dare qualche cosa ai figli anche, perché non è che uno lo fa per male, lo fa per dare qualcosa, lasciare qualcosa ai figli. Guarda, la ditta di Salvatore, non lui, io a lui l'ho conosciuto da poco quando è in baracchino, anzi mi ha conosciuto lui perché lui mi conosceva, io nemmeno lo conoscevo, lui sapeva di me, cosa facevo, eccetera eccetera. È stato lui, come a Giulio, sono di quelle due persone che ho grandissima stima e ammirazione, sono stati loro a conoscermi prima che io conoscessi a loro, sapevano cosa facevano, eccetera eccetera. Io lo conoscevo di fama la ditta del padre, quella ditta lì, perché da piccolino si parlava sempre di questa ditta qua, ed era una ditta rinomata, la prima proprio, se non la prima la seconda che ha portato le rettifiche eccetera eccetera. Purtroppo sono state delle operazioni un po' così, si sono divisi tra fratelli eccetera eccetera, però quella ditta sarebbe stata molto più grossa di quella che c'è a Muros, che è venuta molto ma molto dopo di loro, che però sta lavorando adesso, hanno iniziato a scommersi tra fratelli e lì è finito tutto, il giocattolo si è rotto perché economicamente erano molto ma molto benestanti. Ma comunque anche il fatto che uno fa lavoro e non paga, tutti quelli finiscono le dita, quando ci hanno detto che non paga, che il fa lavoro non paga, l'altro fa lavoro non paga, e alla fine poi uno non sa più dove si sono per pagare quelli che non pesi, fornitori, eccetera, eccetera. Già lo so, purtroppo, scusi. Mi dispiace perché è una brava persona. Forse molte volte si è buttato, si è inviscato in certe situazioni che avrei preferito, magari forse consigliato male, non lo so. È andato a finire male, ha fatto investimenti, poi non è riuscito a rientrare, eccetera, eccetera. Perché non è cattivo, non è un truffaldino nel senso di quegli avventurieri. E Mario è poco esperto per certi versi, dai. Perché lui dava parole a tutti, ti faccio quello, quell'altro, lavori senza pagare, l'hanno bruciato un bel di lavori a lui. Sì, è una brava c'è di carattere, e dunque le cose che facciamo le approfittano tutti. È quello brutto. Lui era molto bravo di carattere, una persona che se ne trova, da rispettare, ma non tutti pensano che quando una persona è brava da rispettare. Era, non è busso già. Vabbè, ma io non lo vedo più, quindi dico. Mi ha promesso che veniva, solo che poi dice la moglie che veniva per pasta, però la moglie poi stava sostituendo una che era in attesa di figlio, gli ha commusolato tutti i piani, erano a ciclo ridotto, se no sarebbe sceso a Pasqua, mi ha detto ti prometto che scendo, vieni, non ti preoccupare, poi me deve portare anche della roba a me, deve restituire a Mario Masso in un apparecchio che in mezzo alla roba sua quando sono partiti sulla portata però era di Mario, eccetera, eccetera. Mi ha promesso che veniva, ha detto stavolta me la. Lui mi dice sempre sali da me, sali, non si fa, l'Austria non è come andare a Genova, se fosse stata a Genova vai, per andare in Austria deve fare strada. E c'è solo dietro l'angolo. Allora sono lontana, mia figlia è andata 2 settimane fa, è rientrata con la scuola a Vienna, fate la giudizio, mi tanti saluti mandali. Io ci sono andato, l'Austria è bellissima, guarda ci sono dei posti spettacolari. Vienna non ci sono andato, però chi è andato è una cosa fuori dal mondo, veramente bello. Io ho una coppia di amici miei che sono andati. No, io sono andato quando ero a scuola, l'ultimo anno, nell'82, siamo stati a Innsbruck, vicino, eravamo noi accasati a Trento, è abbastanza vicino, sarà 2 ore di macchina, non lo so, ma posti spettacolari. Solo che a viverci, non lo so se ci riuscirei a viverci in quei posti lì. Poi un ordine, una precisione, non vedevi un coso in terra, un giorno mi ricordo stavo mangiando la pasta, ho preso una pasta, quelle con lo zucchero a velo, mi è caduto in terra, non avevo la Madonna, pulito con i piedi, passandoci i piedi, cercando di nascondere, era uno specchio il pavimento, fuori nella strada mi sto parlando, c'erano i negozi dei dischi che mettevano i dischi tutti fuori, gli LP, coso, le copertine col disco per farli vedere, poi allora hai preso, chiudevano la strada, venuto in carriera, io dico non vai a fare la strada, era una cosa del genere, era una cosa fuori dal mondo, siamo entrati in questo megamercato, quelli grossi, come ci hanno visto gli italiani, subito ci hanno riconosciuto e stanno in busto la Gantone, il direttore, il resto gliel'ha detto, questi tutti soddisfatti dei coso, dei ricchi e poveri, mi pare era, sarà perché si ama una Gantone del genere, e tutti contenti perché ci avevano accolto. Visto, però hanno fatto una bella accoglienza, è una cosa per farti capire che anche loro ascoltano la nostra musica. Mentre mia figlia non è stata soddisfatta del computer, sono tutti i piatti fatti, si genere, ma sì, di là per parlare con amici, io sono in cuffia che sta salutando, sembra i suoni bassi, proprio buono. Chi è la mano? C'è sempre per il corpo, non si capisce il perché. No, io sono la TV, mi sto ascoltando, buonasera a tutti. Ciao qua. Sicuramente è andata a vedere se c'è la propagazione da qualche parte. Sento colpi di pititito, punto, punto, punto, non capivo cosa era successo. Batterie scariche, questo sto uscendo adesso. Cazzo, ma adesso sei successo. Gli apparecchi, vabbè, prendi gli apparecchi, ciao. Sto uscendo adesso. E adesso si rompe. Ha mi ha apparato buono, non so cosa è successo. Ho visto se è battuto la potenza di colpo. Dopo mi devo guardare se si è successo qualcosa. Non è uscito di colpo potenza. Non sa niente lo smitter. No, di colpo, proprio ha fatto non ho capito cosa è successo, perché l'ha fatto caldo, però non è che stavo spingendo neanche troppo, ero normale, ho visto la tensione, ci sono sotto mano, sono 13,75 volte, per cui la tensione è a posto, che strano, non riesco a capire cosa è successo. È particolare quel momento. Adesso lascio la ferrare e poi lo vediamo. Ma di colpo ha fatto tu, sono andato a parlare e ho visto non saliva la lancetta, che sarà il successo. Adesso poi ha attaccato l'altro baracchino, c'ha questo cacchio del PTP in mezzo all'occhio, l'MS100 lo devo aprire, adesso sto uscendo col pace e col Tamer. Vabbè. C'è una piccola resistenza che ho sentito anche a me. Non sento caldino l'apparato adesso, ma non c'è successo niente, va bene, la guardo con calma quando sarà fredda. Comunque qua sto uscendo, tranquillo, quel cacchio dell'MS100 forse ci avrà anche la batteria a scarica, perché ho visto il modulo questo non saliva più come saliva prima. Qua di radio come sono già? 440. Va bene. Cos'hai detto qua? 440 ti ha fatto il problema. Via. Non stavi parlando, come è successo? Nulla, no. Se si parla dopo questa lancetta era a zero, che cosa sta succedendo qua? Ho riprovato niente, non usciva di potenza. Era di commutazione quello. Infatti siccome è successo anche altre volte, però me lo faceva l'accensione, non me l'aveva mai fatto durante quando era caldo, infatti voglio capire. Per lei di commutazione di banda? Non lo so, adesso lo lascio raffreddare pure, magari se no stasera se la giocata, perché tanto fa poco stacco, se no lo vedo domani con calma. Vai tranquillo. Ok, dai, vi sto ascoltando, quelle vele di comunicazione, Robert, ti hanno dato in protezione, evidentemente non si è riscaldato il componente. Ti hanno dato in protezione, non ti fa uscire, ti prova la fredda, ma comunque da cambiare quello lì. Lo so già, ma scusa già, però io ho tutti i problemi di questo apparato, io sto pensando che siamo tutti dovuti a questo cacchio di commutatori che non valgono niente, quando busco qualcosa di simile, vado di là e compro un commutatore per dire a 5 uscite di quelli di qualità e si danno tutti i commutazioni, perché ho il raccordatore esterno con il commutatore di con due antenne, più questo qui va a finire un altro commutatore e comanda altre tre radio, e troppi giri fa, e quello lì è il problema secondo me pure. Non comprate il commutatore del ZG, quelli della Inter che non servono a niente, quando avete serrati e commutatori buoni, io ne ho comprato una, sì, che mi è costato un patrimonio della Diamond, a 6 connettori, 2 ingressi di antenne, 2 ingressi, 6 uscite, mi è costato 150 euro, non comprate commutatori di merda, perché vi rovinano gli agganci del relè. Quando l'antenna commuta deve essere commutata diretta, senza perdita, altrimenti il relè di questa radio ne soffre. Gianni, dimmi scusa Gianni, Claudio, te lo dico anche io, per esperienza c'hai ragione al 100%. Infatti, secondo me tutti i problemi di quella radio mia sono dovuti a questo fatto qua, perché me ne accorgevo l'accensione, anche quando commutavo l'antenna tra l'una e l'altra, poi andavo a scansione portante, non me lo davo, la dovevo spegnere e riaccendere, dargli l'eccitazione al relè, così, c'hai ragione al 100%. Sono mondezza, lì di dare 3G sono mondezza, l'unica cosa, questo col commutatore, c'è di bello per far vedere la potenza in grande, boh, per il resto è mondezza, non serve a nulla, sono giocattolini per baracchini, ma se li metti qualcosina di più serio e un po' più performante si sciogliono, non valgono niente le commutazioni di questi commutatori. No, niente dentro, vabbè, non hanno niente, hanno un chiamalo commutatore variabile, che non è commutatore variabile, perché i commutatori variabili sono quelli porcellanati e quelli degli amplificatori, quelli sono dei commutatori variabili. Ok, che fanno lo scatto e hanno praticamente l'aggancio direttamente diretto, quindi non hanno niente, hanno un passaggio, se tu lo apri quello nutrizione buona, per l'alimentatore buono, non l'alimentatore di quelli cagati. Hanno bisogno di un capo buono, hanno bisogno di un commutatore buono, hanno bisogno di uno strumento buono, hanno bisogno, tutto deve essere cambiato quando si usano quel tipo di apparati, perché sono fatte danno, fatte danno. Già, grazie, hai ragione al 100%. Infatti adesso la prossima spesa, il prossimo investimento, modificare tutta la commutazione, perché sennò dovrei leggere tutto. Per 30 euro di commutazione, di commutatore, distruggi una fattura e costa 400, c'è ragione al 100%. Non lo si può, aperto io quello la detta lì, guardare lì, invece di vino elettrico, di piattina agentata, di piattina, di tondino agentato con un commutatore che si scioglie, appena li metti 10 watt si scioglie subito. Quindi sono quelli grossi, infatti aveva detto di farlo, ma non ha già tempo di farlo, utilizzando quei commutatori militari, quelli a 4-5 posizioni, te lo costruisci tu, ma non ha già tempo, fai prima a comprarlo, spendi quegli 80-100 euro, almeno sei sicuro che sia una cosa efficiente e duratura soprattutto. L'unica cosa appunto neo della mia stazione è quello lì, i commutatori e l'accordato del tempo, sono giocattoli rispetto a tutto il resto che c'è sotto. Sicuramente sì, sicuramente sì, io non lo dico per, come ripeto sempre le stesse cose, per offendere nessuno, ma quando uno spende deve spendere, basta, non ci sono, come io guardo, ne ho quattro commutatori del ZG dentro l'armadio, ne ho regalato due che sono serviti proprio per baracchini, ma per questioni, per darli e rovinare le radio di questo genere, no, non le posso fare, rimangono lì, non me ne frega niente. Io ho fatto il lavoro, ho comprato un buon commutatore d'antenna della Diamond, i cavi li ho messi grossi, nuovi, H510, superiore a 213, RG8, superiore a qualsiasi tipo di cavo di discesa. Quindi quando parliamo di 510, di 508, dell'H110, sono tutti cavi a doppia schermatura, con la carta rivestita in alluminio, col centrale rigido, quindi non hai nessuna dispersione, anche se tutti i glaciali a grande discesa hanno dispersione, però questi sono a bassa perdita, commutatore buono, l'antenna è diretta sulla radio centrale che è questa, sulla TV150, quindi è diretta sull'accordatore, pertanto sono cose molto, molto importanti da fare, non usate commutatore ZG perché vi fanno partire la commutazione del relè di scambio di banda, del relè, perché ne ha tanti, queste radio ne hanno tanti dei relè, c'è una piastra piena di relè, mi pare ce ne siano due per ogni cambio di banda, e dal momento in cui tu cambi banda con questo cazzo di commutatore di merda, è chiaro che non va assolutamente bene. Gianni, a te, continuo a guardare la TV salutando nuovamente tutti quelli che sono ascolto capo a capo. Yeah, abbiamo bisogno della TV, se vuole, cioè, se vuoi guardare. Non prendi, va bene. Visto che sai che sono un po' così. Ideale, Sander, ma io non so quanti ne ho nel radio attaccati in contemporanea qua, e non mi rimano bene per le scatole, non farli girare tutti quanti. Ce ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 apparati che potevo usare, a parte gli altri che sono staccati. No, non mi piace tenerli fermi, ogni tanto li faccio girare. Vabbè, ma provvisoriamente, che non prendo un commutatore buono, sicuramente è andato in protezione, non lo so io come funziona quella radio, penso che non gli sia successo niente, perché quei capo di commutatori così, quando con quelle radio lì scaldano, scalda e poi va in malora. Però non ho capito, non mi era mai successa una cosa così. Mi è capitata un'accensione che non ti dava la potenza, spegnevi, riaccendevi un paio di volte e gli dava lo scatto, ma adesso non l'ha fatto, ce l'ha fatta la radio calda, e chi sono di me quasi che sa male. Stazionale non ce n'era, non c'era niente, e lì tu, il dubbio mio è quello, se non sia successo niente ai finali. No, ma penso che si blocchino, Roberto. io non lo so come funzionano quelle RAM, ma mi hanno detto che se c'è qualche problema si bloccano. Non lo so, a me così mi hanno detto, non ce ne ho mai avuto io. Sì, protezioni ne hanno pure troppe, anche se ci sono il rosso alto, non esce, eccetera, eccetera, là e cosa, però sono talmente sensibili da capire del successo, non lo so, adesso domani come ha raffreddato bene, riprovo a fare tutte le prove normali, c'è anche l'autodiagnosi, si schiacci, ci sono dei funzioni e puoi fare la diagnosi. Ma io, cioè, per ogni inconvenienza avrei messo l'antenna diretta per provarlo. Tanto non penso che ci voglia niente, dallo attacchi e attacchi il PL. Capisco che tante radio, tante cose, ma è meglio provarla così. E sicuramente faccio così, la tappa direttamente, la prima cosa da fare è quello, così tocco tutti i dubbi. Però c'è da dire che il commutatore adesso, io sto utilizzando un'altra radio, lui può fare un favore anche un altro, solo che c'è questo cavo del BTT difettoso, il microfono si punta, il commutatore sta andando, ve lo fate capire cosa sia successo, non ne ho proprio idea, non mi era mai successa una cosa del genere. E sicuramente avrà scaldato per quello. Ecco, le radio sono particolari, danno potenza, danno, magari l'ha fatto scaldare, l'ha fatto e poi non andava più, perché purtroppo è come una spina, di corrente, che magari lì succede così, una spina di corrente assorbe e poi si scioglie, e così è quello lì. Adesso vediamo, ok, vai già, riprenditela. Io la mia, io l'ho avuto il commutatore a 4 della ZG. L'ho acceso, di colpo così, tutto a massa, perché cosa è successo? Qua è l'antenna. Provo, faccio la prima prova che si fa, sta perché il commutatore mi salta la diretta e non lo faceva più, uno di stazionare, che si attaccava il commutatore in fondo scala ed era nuovo, comprato nuovo da Fusaro, nuovo nemmeno un mese, ce l'ho buttato via, ma aspetta, non c'aveva nulla, ce l'ho buttato via. Sì, già lo so. Allora, io ti ripresento, sono molto scrupoloso, l'alimentatore è sotto, diciamo, per vedere la tensione mi dovrei inchinare, mi viene un po' male, l'ho messo proprio sotto al banco, non lo guardo. Ho collegato un multimetro digitale professionale al laboratorio che indica proprio i decimali, a 2 decimali la tensione, ce l'ho proprio frontalmente, e c'erano 13,72 volt, la prima cosa che ho fatto, ho detto tensione a posto. Ce l'ho sotto mano, quello della ZG, quello grosso, il commutatore antenna con accordatore, ROS 1 e 2, per cui non era neanche problema di ROS, non riesco a capire cosa sia successo, è la potenza, di colpo è sceso, come stavo parlando, ho visto, che è successo, non ha una logica quello che è successo, sembra come che siamo partiti finali quando scala una cosa, infatti è questo qui il dubbio, speriamo che non siamo partiti finali. Buonasera. Scendi chi so. Che? Io, e tipo che sia. Beh, va a abbassare le fregheni perché non capisco cosa stai dicendo, è troppo forte. Troppo forte. Sembra strano. Buonasera comunque, ben sentiti a tutti quanti. Quanto va? A me l'aveva fatto il C80 quel difetto. Ma non vedo, ti funziona a te. Dici, ma non stavo spingendo, io non ne uso potenza, io vado con 10-15 watt, non è che vado con potenze esagerate, Antonio. Me l'ha fatto quel difetto C80, per due volte me l'ha fatto. Pensavo che funzionava la vento, ma invece sto cavo dietro la bollente. Una volta che arriva a quel livello, figlia, mi ha fatto quello scherzo, ho dovuto spegnere, farlo raffreddare, ho riacceso e non ho ripartito. Infatti voglio capire questo, io non lo so cosa sia successo, lo lascio raffreddare, domani mattina lo provo e vediamo un pochettino. E sto uscendo con il pace, con il tunnel più 3. Vabbè. Ciao Antonio, ben sentito. Ben sentito, Pompu, sì, Santiago 3, qua la dolce. Lo so che sono Santiago 3. È strano che stia arrivando così tanto forte a cosa, a Roberto. Questo tanto potete arrivare. Ho avuto attenuare, non riuscivo a sentire, vabbè, che questo satura subito il coso, l'ho messo a metà nelle feghine, infatti adesso dato che stava parlando non lo sentivo, l'ho sollevato un pelustino, se no non riuscivo a sentire Antonio. A fondo scala quasi lì. Positivo. Allora se lo ti faccio vedere come arrivo a fondo scala, questo è uno e questo è il secondo passaggio. Passi tu. Era con la antenna. Appa, adesso sì che sei tu. Adesso quanto ci bene con quella radio, Roberto? Certo, scusa, a me sta dicendo. Ho detto, quanto ci bene con quella radio? È questa? Sì, mi piace, mi piace. Vabbè, questo già non è dubitato, è una cagata di radio a livello di ricezione, perché prende colpi, nel senso, quando sono segnali troppo furti satura, però i radio di emissione me l'hanno sempre parlata bene, al contrario di un altro che a me piace molto di più, però di radio va di chifu di trasmissione, in ricezione eccezionale va di chifu di trasmissione. Ho visto bene, la verità. Prova a riaccendere il coso, il tempo da vedere se si riprende, la sapete, la peschiamo questa cosa. Poi ce l'ha fatto. 1, 2, 3, 4. Ok. Prova a riaccendere l'oreggio, vabbè. Ma c'è una fine, vabbè, anche se sono ancora caldino, c'è una... Allora è quel difetto che ti ha fatto, perché non ti funziona la ventola, l'aria col petto dietro, deve esserci polvere senz'altro. Uomo, mi senti, pompo? E ho voglia che ti senta. Ti sto parlando con una e ascoltando con la 58. Su quella là ti arrivo. Ho voglia che arrivi anche con la direttiva. Ma come sei così basso qua là? A casa mia perché è puntata verso 8 ottobre, sentio via, capito? Oh, sto uscendo? Sì che stai uscendo, va bene, c'ho ragione io. Tu c'è la vetta, non ti funziona, te lo mi lo voglio dire, te lo applico l'apparecchio e dà una bella passata di coso di pinzello. Infatti la metto, non l'ho sentita, ma se prendete adesso sto uscendo con 15 watt. E i finali non c'hanno niente. Stavo ascoltando quando ti ha fatto quel effetto, me l'ha fatto anche a me, ci ho usata due volte. Ma quella volta, ogni volta quando lo usavo, se vedevo che era appena caldo, gli davo un colpetto dietro e partiva subito la ventola. Quindi ti conviene ogni tanto dare un colpettino dietro, se te la di un ciumbato, si facciamo una volta con i valvolari, dagli un colpettino e vedi se parte la ventola. Se la ventola parte vuol dire che sporca appena appena. Capito? Io non è quello del 30 che ce l'ha esterna, la ventola quella ce l'ha interna. Questa cosa ce l'ha interna lo stesso, qua. Beh, ma lì c'è un relè che commuta la ventola, quindi quel relè va sostituito, punto. Non è andare a colpi con la radio, va sostituito e basta. C'è un termostato che non entra in tensione, perché il relè non commuta la tensione, quindi va sostituito quel relè, è una tronfatta. Ecco, ma non sapevo che c'era il relè la ventola di quell'apparecchio. L'ho soltanto, ma non lo faceva. Lo faceva solo quando scaldava parecchio. Ma due volte è successo, non detto. Aspetta che sta chiamando Simone. 4.30 e 4.40 c'è un relè di commutazione sul termostato. Quindi se non commuta va sostituito. Te l'ho già detto poco fa. Il relè è da cambiare, Roberto. Ok? Perché la ventola non si prende a colpi, la radio per funzionare. La ventola ce l'ha attaccata dietro, quindi la vedi quando la senti, quella interna non la senti, però va sostituito quel pezzo, è inutile che stai a prendere la curva e farlo raffreddare, te l'ho già fatto una volta, cambialo ciccio. Sì, ma claro, non me l'aveva mai fatto a caldo, lo faceva all'inizio per dire come accendi non ti dava potenza. Provavo un paio di volte l'interruttore, accendevo e spegnevo e si riprendeva. Adesso invece me l'ha fatta a caldo, la cosa strana è quella. Oh, Chi sei arrivato qua? Ti sono io e ti sento perché sono in letto che ci sono. Buonanotte, buona domenica, vabbè. Ah già, buonanotte anche io adesso interrompo, non ho bisogno neanche più ora, non sale le 10:30, se fa domani va a stare presto tra l'altro. Ok, dai, interrompo anche io, dai, saluto a tutti quanti, ciao Gianni, ciao Claudio, Antonello, Antonio e tutti gli eventuali amici qua ad ascolto sul canale 12. QRT da parte mia, buona giornata per tutti domani, ciao ciao. Ciao Robè, ti saluto, buonanotte, non lo prendere a colpi la radio, le colpisci per noi la matrice della battaglia, capito? Lo apri e sei abbastanza capace, lo vedi subito, lì c'è un termostato, a fianco la ventola, non si possono regolare purtroppo, ma c'è un relè piccolino di commutazione, che è affiancato a un transistorino piccolissimo. Quindi vedi un po' prima di lubrificare, a coperchio aperto, tieni la portante calcata, carico fittizio, vedi se la ventola parte, se il termostato va in funzione. Dopodiché se non va in funzione glielo cambio, il problema risolto. Ma non lo tenere così perché ti può avvertire una volta, ma la seconda non ti perdona. Se passa quella temperatura la radio ti parte fino alla trasmissione. Bucchio la penna, ciao, passo e chiudo. Ciao, ci sentiamo. Se hai problemi, sai dove sono, me lo porti e te lo cambio, ciao. Ehi, se hai problemi, già lo sai, alla Sisa. Ehi, Mela. Ehi, Ebe. Obamara. Obamara, mammara per me. Come va, tutto a posto? Ehi, per va, tutto ok, mi ha ben detto la televisione, ogni tanto intervengo. Questi ragazzi monelli che non si cambiano le ventole. Sempre problemi sono. Come va questa radio? La bomba, 59 più, radio super 5 per va. Vabbè, dico com'è di radio. Bella la tua, bella pimpante e sempre potente. Pensa che è la prima volta che parlo a questa radio. E la tua modulazione, bella forte, bella. Della presente, sempre col solito effetto rimbombante, va bene per qua, va benissimo alla grande. Già va bene allora, ti ho sentito, sono voluto entrare, sono mai toccata. Così vogliono le radio, allora a me le radio vecchie non mi piacciono, anche se sono di vecchia generazione, ma devono essere belle, se no non mi interessano. Io non me ne serviva le radio, soltanto perché me l'hanno regalata, ho accettato di buon piacere il regalo, ecco. Anche se regalata per qua, anche se non serve bisogna prenderla, e quindi no, complimenti, veramente esce molto molto bene. Sì, tu la regalata già va bene, la metto lì insieme con gli altri a monumento. A monumento, hai detto bene, a monumento. Tanto quando non hai date da voi, no, ci sono da trattare, quindi no, cosa ne fai? Però si accetta, dice, purtroppo quando sono così sono da accettare, poi sono radio che quando sono regalati io faccio così, mille, sono morte lì perché neanche ne prendo più. Sono io baracchini, li ho tutti, ho tenuto quello grande, il DAC e basta. Adesso sono tutti dentro l'armadio, parecchi li ho levati, perché se no diventava un mercatino veramente allucinante. Uso solo le radio che sono praticamente in uso, con le antenne attaccate, avevo 6 o 7 alimentatori, niente più bello di tutto, non mi interessa. Già va bene così per fare due chiacchiere, continuiamo a usare sempre questa, questo vecchio 430. Linea completa con un correttore automatico esterno, alimentatore suo della fiera, colonna sua, quindi va bene, lo uso in banda amatoriale e lo uso anche qua nel 27, tanto non per stare ad avere tante cose per niente. E infatti, a te lo ricordi che il calcio, che pende che mi aveva regalato tutto? Sempre qua, Ho fatto sentire Antonio un giorno, anche quella è una bella radio, piccola mammasiccia, Sempre qua, quello lì il seggio è lì, a monumento, e quello non si tocca. Jackie Penny è favoloso, io l'ho visto la volta da poco, gli tu Jackie Penny, bello massiccio, bello robusto, bello gerioso, lì un bel microfono a tavolo, va molto bene, ha una ricezione favolosa, va molto bene. Va bene, faccio girare Pietà, vediamo, ti mando avanti Antonello per i saluti, Antonello ci sei? No, aspetta, io ti saluto che devo andare, cara. Riprendi allora Pietà, dai. Dai, mi dispiace non aver parlato con gli altri, ma devo andare purtroppo a fare una cosa irrimandabile, quindi sono entrato giusto per salutarvi. Infatti vi saluto tutti e ce la risentiamo alle prossime, dai. Dai, saluti a tutti. Ciao, alle prossime, salutoni, fatti sentire, avanti Antonio, riprendi tu, fai girare la ruota. Ciao Pierpa, salutoni, ben sentito. Caffa, ti ha salutato adesso. Per il primo giorno non ho detto niente, ma è comunque quella la radio, dai. La bella Antonio, complimenti. Caffa, che segna radio, no, figa. Infatti sto mettendo anche il telo, che sto mettendo per coprirla bene. Polvere? Eia, per la polvere. È nuova, nuova. Nuova. Per la radio quella, però sì, è stata sempre una grandissima radio. Bella, bella in tutto. Va bene. Dai, microfono per Gianni, io rimango in quelle lì. Salutato per Paolo, salutato a tutti, a te Gianni, riprendi a girare. Gianni, ma come riprendi tu che Gianni si è lasciato addormentato? Mando un codice un attimino che c'è gente. E via, d'accordo, va, sentiamo dopo. Allora. Chi ci è arrivato? Roberto, ce ne dice sì. No, se n'è andato Roberto, proprio. Ah, positivo, ho cappretto. Chiappa, questo si sente bene anche da te, un po'. Sì, che ti sento bene. In gara si Saturne, come ti chiamo, Saturn, 5 stelle. Però ho avuto Saturne, ecco io, l'avevo volato a Tavino, poi lui non so che la faccia. un bel apparecchio, un bel apparecchio, c'è anche, avevo fatto la modifica del potenziometro proprio dell'ecco dietro, per regolare l'ecco all'esterno, però è un bel apparecchio. Non essere giusto, no, quello ha venduto un'altra persona. Ecco, no, l'ho provato già con l'apparecchio, non è che sia brutto. Ma nel senso anche più belli di quello. Ci sono apparecchi modello antico, di quelli direttamente ci belli, belli, belli veramente. Bella, non so, già. Ma non credevo che era così bello. Ma mi piace, va bene. Funziona abbastanza bene, non mi posso lamentare. Sì, c'è solo un difetto, devi... quando sta che piede devi stare attento che se la piastrina che c'è sotto dove c'è l'alimentatore, c'è la piastrina, se vanno quei condensatori in perdita, tirava la scarica a mano. Sì, non ti preoccupare che già ne c'è ancora in fila. A me mi ha fregato solo una volta, da quella volta lì quando ho preso il saturno, ecco, mi stacco sempre con la piazzina, faccio attacco di vento e sono più tranquillo, almeno non mi perdo la scossa quando stacco il PL. Ma io ce l'ho diretta l'antenna, eh. Sì, vabbè, anche io invece qualche volta devo staccarla, riagganciarla, allora con evitare le scosse, già ne avevo preso con le fitte 250 parecchie, quando ce l'avevo. E arriva la malinconia di nuovo, provo a spegnere l'apparecchio, attaccare la spina, aspettare che il condensatore si scaricasse, anche il valvolo e poi staccavo il PL. Questo non è un valvolo, e adesso l'RF power. Guarda come ti arrivo adesso, con l'RF power è tutto abbassato. Già arrivi bene, il più basso se ma già arrivi bene. Non so il segnale. 5. Sto aperto. Quanto è? 7. Calma. Ebbene. Se la passi penso che deve andare due parti, non lo so. No, mi sembra che da una parte e mezzo, non mi ricordo adesso più, la verità. O 12 e 4, non mi ricordo adesso. Così è. Ma già funziona abbastanza bene, tutto, vabbè, è che per questo invece è abbastanza tranquillo, positivo, dove non sgarra, prima un pochettino era ballerino, l'ho centrato, no, era perfetto, 27 105. Io ti saluto, non hai più gana, non c'è più nessuno in questo canale. No, non lo so, ha scambiato baracchino. Come sto uscendo? Bene? Benissimo. Un apparecchio vecchio sto usando, ma vecchio vecchio, con microfono l'Ecomaster. Io ce l'ho qua all'eco, ma è meglio che non lo metta perché magari mi fa male, è amplificato l'eco dell'apparecchio. Vabbè, questo è il microfono, non stavo con chi altro. Guarda un po', fastidioso, eh? È un po'. No, non è fastidioso. Ciucco ciucco. Adesso è a metà. Guarda l'eco dell'apparato, com'è? È buono. Esce bene. Anche questo microfono in realtà funziona. Questo è il microfono di... dove si dice di coso di... non mi ricordo il nome adesso, il nome attivo, c'è cioè, Valser Turnecco, è abitato anche oggi. Una rossa, una rossa, Vittorio, una rossa. Questo è il microfono suo. Ma te l'ha venduto? insieme a Saturnecco, Mario Mosse. Era agganciato al Mobicon 40, questo baracchino qua. Questo microfono qua volevo questo baracchino. C'era dei problemi, adesso riparato e a posto funziona. Non funzionava bene l'eco e poi neanche il modulometro, adesso funziona a posto. Venga, ma è un po' così, so. Devo comprare un po' di batteria per il microfono, ma che dico? È di M1000 succhia. Lo so che succhia. Dovresti cambiare il cavetto e farti l'alimentatore retro, se non metti un alimentatore di quelli squicci più piccolini, di telefonino cellulare, se c'ha 8 forse e mezzo, anche 9 va bene. Così te lo alimenti, non stai a cambiare batteria ogni volta. No, mi interessa fare questo contatto. Lasciare l'originale e basta. Cambio la batteria e finisco il discorso. Ah, va bene, fai così allora. Ciao, sono guardando la televisione, ciao, continua. Allora, sono il genere una ricetta di invite. Dai, qualche mattina ci facciamo una chiacchierata, ok? Ok. Tempo libero ne ho tanto, dunque, chiamami già, ci sono sempre al baracchino, quasi sempre, dai. Quando non sono attualmente indaffarato, ci sono sempre ad ogni modo, sono in pensione ormai. Peccato, sono contento, che tu è una ricetta senza sentirti, sono contento che l'avete sentito. Ok. Ma ti arrivo bene alle punte, sì? Benissimo, tu. Benissimo, non ci sono problemi. La radio è molto chiara, molto bella. Pulita. Sto usando un Galaxy Saturnecco. Sì, lo sento dalla timbrica. Non ho subito capito che era un Galaxy. Peccato. Già fa la grande. Ok. Va bene. Ok Giulio, ti saluto. Ok, ciao a tutti, ci sentiamo alle prossime, magari domani. Adesso sto seguendo la televisione, poi qui non posso disturbare, capito? Ciao Antonio, ci sentiamo alle prossime, lo prendi. Ciao a tutti e due, ci sentiamo alle prossime, statevi bene con quel tipo la notte. Appagata. Ciao, ce la sentiamo. Oh, buon po', io chiudo, non mangio. Non ho più voglia, la verità, sono anche stanco perché stamattina ho lavorato e cosa, sono ritornato tardi, ho mangiato tardi, così che un pochettino di stanchezza si è fatta sentire, dai, ce ne sentiamo! E non c'è problema, dai, ci sentiamo le prossime, non problema. Buon quelletti a tutti e due e ce la sentiamo.